Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Leadership è un processo che consiste nell'interazione di coloro che in una struttura occupano la posizione più elevata, altrimenti detti anche leader col resto del gruppo. Una delle caratteristiche fondamentali di un leader è quella di proporre idee e attività utilizzando mezzi per influenzare i membri del gruppo a modificare il loro comportamento. Ma lo strumento più efficace per imporre la leadership è senza ombra di dubbio la voce. Benvenuti signore e signori, Radio 24 in diretta con voi, sono le 14.32, anzi adesso è 33, benvenuti a Voice Anatomy, questo viaggio all'interno della voce declinata in tutte le sue posizioni. Vi ricordo i nostri numeri di telefono per intervenire con noi, con i nostri grandissimi ospiti. Oggi sono veramente tanti perché parliamo di leadership, la voce nella leadership, insomma ci saranno qui anche dei campioni del mondo, pensate un po'. E allora vi ricordo i nostri numeri, il numero verde ovviamente per i nostri provini, la nostra segreteria telefonica. Anche oggi avremo un ospite, un ragazzo che si è cimentato in un momento recitativo, il numero 828 1212, ma per intervenire in diretta con noi come sempre è l'824 00 24, il numero degli sms è 349 238 6666. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione ripresentandovi un ospite eccezionale che è stato già con noi la scorsa settimana, e lui di leadership se ne intende, anche di voce nella leadership se ne intende tantissimo, e visto il grandissimo successo vorremmo anche ringraziarvi, visto che questa settimana questa trasmissione, questa radio sono state in testa queste podcast più scaricate, insomma diciamo grazie soprattutto a voi, e credo un pizzichino anche a noi, significa che stiamo facendo forse qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Di diverso dalla scorsa settimana non c'è l'ospite perché lui è sempre qui vicino a me, Frank Merenda, è inutile che lo ripresento. Comunque per ciao chi a si tutti ragazzi, per chi si fosse messo soltanto ora in ascolto, lui è un imprenditore seriale che nulla a che vedere con un serial killer ovviamente, imprenditore seriale, ed è un creatore di brand di grandissimo successo, proprio come venditore vincente, e migliaia di persone, anche ormai decine di migliaia in questa nazione e non solo, sono abituati a seguirlo e a pendere un po' dalle sue labbra, ma non come un guru, ma come un personaggio che veramente sa quello che dice. E allora io mi sto zitto perché da questo momento poi ho finito tutti i sinonimi e i contrari e parlo con lui. Allora, grande Frankie, che cos'è intanto la leadership? E poi cominciamo a parlare anche della voce. Allora, la leadership è un argomento estremamente complesso perché io ho fatto una ricerca nel corso degli anni e ci sono più di 180 definizioni diverse della leadership, ed è veramente un problema, soprattutto negli ultimi anni, perché la leadership ha preso una strada molto new age, quindi è molto legata a dei concetti che in realtà la rendono difficile anche da spiegare per le persone se non si va alla radice di ciò che la leadership è veramente. Quindi io vorrei darti quella che è una visione molto laica sulla quale poi poter costruire anche il concetto della voce stessa. La leadership innanzitutto da dove nasce? Nasce da un contesto, e nasce da un contesto di difficoltà. Molti leader in realtà non è che nascono io voglio fare il leader, semplicemente si muovono in un contesto di reazione a qualcosa di estremamente difficile, estremamente grave che accade nell'ambiente. Questo avviene nel business, quindi quando sono degli imprenditori che hanno una grande visione nel cambiare le cose. Steve Jobs nasce per esempio un grande leader perché nasce come contrasto alla difficoltà della del mondo high tech di realizzare. Sì, le non cose. È una cosa come diventi prima maresciallo, poi colonnello, poi diventi leader. No, no, leader ci si nasce anche con quel carattere, anche le squadre di calcio. Assolutamente. Il loro leader non è quello che segna di più, ma quello che ha il carattere vincente e quello che riesce a trascinare la propria squadra nei momenti di grande difficoltà. Assolutamente sì. Quindi di base l'innovazione. L'innovazione. Di base il leader è un ribelle, cioè una persona che non gli sta bene come stanno determinate cose. Solo che il leader, la leadership è qualcosa di neutra, cioè non è che è qualcosa legata a qualcosa di buono o qualcosa di negativo. Nel senso che se tu sei una persona con grandi valori e sei un leader e ti ribelli a una situazione quindi negativa di oppressione, diventi Gandhi, diventi Martin Luther King. Se invece ti ribelli e davanti per esempio a una situazione di oppressione del popolo come poteva essere in Germania, diventi Hitler. Ma è sempre lo stesso meccanismo che si scatena dalla reazione. Sì, non c'è un colore politico, non vogliamo fare un'analisi ovviamente logica di una destra, sinistra o leader. È leader, quello è leader, che sia negativo o positivo ovviamente, però quello è leadership. Hai citato bene per esempio la politica, facciamo qualche esempio proprio blando, assolutamente apolitico. No, apolitico, non è oggettivo. Se tu prendi per esempio l'ascesa negli ultimi anni per esempio di Grillo, Grillo è un'ascesa contro qualcosa, per esempio innanzitutto contro la casta, contro il fatto che ci siano i politici, e contro la politica in generale. Certo. Ma la stessa cosa era Berlusconi quando è uscito. Berlusconi è uscito dicendo: io non sono un politico, sono già ricco di mio, tra virgolette, questo era il suo messaggio, quindi votatemi perché io so farò diventare voi come me. Esattamente. Poi vabbè. Sì. Oppure prendi il fenomeno che negli ultimi anni è cambiato, però alla sua nascita prendi la Lega Nord, no, con Bossi, e c'era il problema chi erano? Era Roma ladrona e i meridionali tendenzialmente, che Roma... ma sì, era sempre una causa scatenante contro qualcuno di base. E quindi se tu vai a analizzare tutti i grandi leader in generale, che poi ti piacciono, che non ti piacciono, che abbiano fatto delle cose oggettivamente positive o negative, nascono come contraltare una situazione in realtà di grave crisi o comunque di qualcosa che non gli sta bene. E ovviamente il leader, ovviamente, a parte avere ovviamente la dominanza fisica, che può essere più alto, più basso, non è tanto quello, ma è la presenza, quella si chiama così presenza, ma c'è anche una presenza vocale importante. Se uno va ad analizzare i leader, la loro voce e il modo come si sono imposti rispetto alla loro squadra, al loro linguaggio professionale eccetera, capisci che ognuno ha una grande caratteristica, che sia, non è detto che siano perfettamente l'italiano, che sia retorico, con le parole giuste, le metafore giuste, eccetera, eccetera. Ma c'è un modo, se vai a analizzare veramente Berlusconi, non è che parla un italiano, no, quel suo modo comunque c'è stato e ha funzionato da quel punto di vista. La stessa cosa può essere i grandi leader, quelli di un certo tipo, i Mussolini che si affacciavano lassù, che tipologia vocale avevano, o altri leader, i Lenin, Stalin, Gandhi stesso, Malcolm X, Martin Luther King. Ecco, cominceremo anche in questa trasmissione a analizzare questi grandissimi discorsi che hanno fatto la storia. Il Martin Luther King di I Have a Dream è indimenticabile. Assolutamente sì. Assolutamente, perché c'era una struttura drammaturgica pazzesca, una vocalità pazzesca, una personalità tridimensionale, ed è quello importante. Per cui tutto funziona in un leader. Ci si nasce, mi sa, leader da quel punto di vista, eh? Sì, ci si nasce e ci si diventa. Alcune persone ci si trovano tramite in mezzo. Tramite un tuo corso si può diventare. Io non mi occupo di queste cose assolutamente. Però alcune persone ci si trovano in mezzo e sono così arrabbiate che alla fine lo diventano loro malgrado, a un certo punto di vista, perché nessuno fa niente, loro si arrabbiano e quindi si mettono nella condizione in realtà di diventare un punto di riferimento. Quindi il fattore ambientale. Braveheart è un leader. Braveheart è un leader. Aragorn era un leader. Allora, per tirarti dentro, per esempio. Allora, sul serio, tu pensa per esempio al Signore degli Anelli, ci sono due grandi discorsi. Uno è quello che fai tu davanti al Nero Cancello, e poi c'è quello di Stefano De Sando, che è durante la cavalcata dei Rohirrim, lui fa Theoden. Sì, okay. Theoden. È uguale, se tu prendi Theoden all'inizio della storia, così come Aragorn, sono due re decaduti in realtà, e nessuno di loro in realtà vuole fare qualcosa di particolare. Sono lì, sono bloccati. Perché? Perché in realtà Sauron ancora non si è manifestato. Quando si manifesta il male, Theoden riprende la spada e Aragorn accetta di diventare re. Daramingori diventa re. Torna a diventare re, ma perché è la situazione che lo porta... col senso, lui non voleva farlo, però il senso di responsabilità lo fa diventare. Io leader. Pensavo che diventava re perché ha saputo che lo doppiavo io. Anche invece no, quello. Anche per quello, che non doveva diventare re sicuramente. Ma io vorrei chiederti questa cosa, perché io ho visto i film in originale. È vero che nel terzo film, in realtà, poi quando lui fa il discorso in particolare, però in generale, la porta un po' di più. Quando lui diventa re, cambia il registro vocale anche di Viggo Mortensen quando lo interpreta. Assolutamente, all'inizio è un principe ramingo, per cui anche un po' timido da quel punto di vista. Non leader, non era leader, non lo seguono immediatamente, per cui anche la vocalità era più remissiva da un certo punto di vista. Comincia ad avere un timbro di voce, una sicurezza, quando veramente capisce che la Compagnia dell'Anello comincia a seguirlo, allora dice: comincia a urlare: ma non è questo il giorno, ma è questo il giorno. Invece abbiamo già una diretta telefonica. Ovviamente Frank richiama immediatamente l'attenzione dei nostri amici radioascoltatori. Allora, Tiziano da Arezzo, benvenuto a Radio 24, a Voice Anatomy. Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao Pino e un saluto a Frank. La non domanda. Nego l'emozione, prego. Dimmi, Ale, stavi dicendo l'emozione. L'emozione non ha voce. Io prego l'emozione in diretta con voi anche per questa seconda domenica. Io, Frank lo avrò piacere di conoscerlo ora tra qualche giorno. Spero di conoscere anche te, Pino, quanto prima di persona. Sicuramente, ecco. Succederà, vedrai. Siccome allora la mia domanda è anche in base al discorso che facevate, lo riporto alla vita di tutti i giorni. Io da venditore spesso mi trovo a telefonare a persone che non conosco. Il consiglio e comunque la domanda, spesso uso un tono un po': oh, buongiorno, salve, sono Tiziano, cioè vado un po' su con il tono, sì, quasi di insicurezza. E mi sto rendendo conto, probabilmente non paga. È meglio, domando, forse avere non tanto leadership, ma un tono, come posso dire, più sicuro, più calmo, per attrarre l'attenzione del mio cliente che non mi conosce ed è la primissima volta che mi sente, ecco. Possiamo risponderti, domanda, in due qui, ci completiamo con Frank. Questo è più mestiere di Pino in realtà, però. No, il mestiere è di tutte e due. Per quanto riguarda la voce, quando uno deve presentarsi, adesso a secondo del brand che presenta, il modo che presenta, diceva l'altro giorno giustamente Frank, se c'è un discorso telefonico c'è un altro tipo di rapidità, di velocità nell'imporsi, ma sempre con grande serenità. C'è bisogno di uno studio di base nell'impostazione vocale, perché è come se io parlassi adesso per radio in questa maniera, ecco la trasmissione di sicuro, oddio, spegni, ti prende un colpo, perché devo attrarre più persone possibile, come te devi attrarre più possibile la persona che hai di fronte per convincerla. No, anche lì la tranquillità, la serenità, ma non senza la forza e l'intensità vocale. Deve essere sereno, dall'altra parte si deve respirare sicuramente una serenità dell'altra persona per essere poi convinta a portarla all'interno del tuo discorso. Tutto questo ha bisogno di una grandissima preparazione, ovviamente, una preparazione importante di impostazione vocale. Sai, noi abbiamo uno strumento che va dalla testa e arriva fino sotto, ma può fermarsi in gola, oppure ma anche in qui. Insomma, abbiamo una capacità vocale come un sassofono e bisogna saperla utilizzare. Poi in tutto questo, una volta capito come si muove questo strumento a fiato che è la voce, poi a quel punto ci sono le intenzioni. Allora poggiarti su una parola piuttosto che su un'altra ha un significato e arriva in quel modo dall'altra parte. Una voce più calda, più suadente, ovviamente accompagna di più l'altra persona a rilassarsi, ma è pur vero, ne parlavamo oggi a pranzo, che una voce costantemente suadente o bassa dopo un po' te provoca anche la noia e l'abbandono nelle braccia di Morfeo. Se cominciassi questa trasmissione anche con una voce calda in questa maniera, parlandovi così, benvenuti a Radio 24, dall'altra parte non è il podcast più scaricato per i bambini per farli dormire la notte, capito? Per cui diventerebbe un'altra cosa, per cui devi sapere utilizzare la pausa, eccetera, no Frank? Assolutamente sì, io mi immagino sempre il tuo discorso se fosse stato fatto tipo così: fini di Gondor, fratelli miei. Sarebbe stato ma non è questo il giorno. È così, è come se Brevarti sia: perché allora preferite morire un giorno così oppure in prigione come... Andiamo a casa noi, breva, vatti a ammazzare te Wallace con tutti quanti, noi torniamo a casa dalle mogli. È normale, i leader hanno questo stentore, ma non è detto che un leader debba per forza urlare, eccetera. Anzi, più tieni la voce bassa nel senso suadente, più tranquilla, più se sei arrabbiato fai male. Fa più male una persona che ti urla in faccia: ah, sei un bastarda! Oppure uno che ti dice: sei veramente stupido, lo sai? Quella fa male, ti entra dentro come un coltello e dici: oddio, davvero forse sono stupido. Non sono stupido io, mi stanno dicendo dalla regia che dobbiamo salutarci per pochissimo, lo sapete, per la pubblicità, poi ci sarete ancora voi, ci sarà ancora Frank Merenda, ma ci sarà soprattutto ancora Voice Anatomy, a tra poco. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti molti pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati, come promesso, eccoci di nuovo qui in diretta su Radio 24 con Voice Anatomy. Sono le 14:48:47, vicino a me c'è il grande Frank Merenda. I vostri messaggi stanno arrivando al 349-238-6666. Saluto al vostro amico marchigiano, sempre in pole position, viva le olive ascolane. Ricordatevi che qui il dialetto è importante. Se la trasmissione è in testa ai podcast più bello, si deve alla professionalità con cui la trasmissione è gestita. Grazie, è la geniale idea di base. Complimenti. L'altro ieri l'iconica Angela Lesbury ha compiuto 90 anni. Avremmo mai il piacere di sentire i microfoni la voce di Alina Moradei? Certo, Alina Moradei ha 87 anni, pensate, adesso è quasi, è molto vicina. Cercheremo di raggiungerla radiofonicamente e telefonicamente. L'abbiamo anche premiata qualche anno fa al Gran Premio Internazionale del doppiaggio. Ciao a tutti, grande Frank, con i tuoi insegnamenti si vola, Lorenzo e Antonio. Ancora altri ovviamente complimenti alla tua carriera. Abbiamo un'altra telefonata, carissimo Frank, Diego da Savona. Benvenuto Diego. Benvenuti, grazie a tutti, grazie di avermi dato l'opportunità di fare una domanda. Prego. Ringrazio Pino Insegno, sei veramente un grande. Frank Merenda è un esempio per tutti, è una persona che stimo molto, poiché dice quello che pensa, a volte sì, anche maleducato, non le manda a dire. Io ti ho detto, io sono solo il conduttore, qualsiasi cosa dica sarà rivolta contro di lui, poi no, io non c'entro niente. È sempre incisivo e sempre efficace il buon Frank. E allora fagli una domanda di quelle graffianti, okay, che possa lui graffiare da qualche altra parte, vai. Allora, qual è la dote principale per essere un buon leader? Conta più la motivazione o la tecnica? Allora, in realtà... la tecnica conta entrambi, ovviamente non si può mai togliere qualcosa, quindi conta sia la motivazione che la tecnica. Di base la motivazione fa uscire la tecnica, nel senso che se tu hai tecnica ma non sei motivato ad aiutare le persone a raggiungere un obiettivo, uno scopo più grande, ovviamente della tecnica te ne fai poco, anche perché poi con la tecnica non passa l'intenzione e nemmeno la voce in realtà funziona se tu non hai la giusta motivazione, che non significa scatena il Gianni Morandi che è dentro di te, grande, ce la puoi fare, non è quella cosa lì, ok? La motivazione significa essere motivato ad aiutare gli altri, quindi avere dei motivi importanti per realizzare qualcosa di grande. E quindi sicuramente la motivazione è in testa, la motivazione aiuta la tecnica, la motivazione ti permette nel tempo di sviluppare la tecnica giusta anche per comunicare con gli altri e quindi anche di sviluppare la tua voce se non sei dotato di uno strumento particolarmente allenato o non sai semplicemente come utilizzarla. La voce è chiaramente solo uno degli strumenti della leadership, la cosa più importante rimane sempre la grande visione dove vuoi portare le altre persone. Sì, ci vogliono dei contenuti, vuoi avere una bellissima voce, ma se dietro quella voce non si nascondono anche dei contenuti da raccontare, poi quando ce l'hai, una bella voce, una voce giusta e dei contenuti giusti, signori, vi proporremo per essere i nuovi presidenti di questa nazione. Allora, grazie Diego, altri grazie messaggi, Diego. Numero giusto, spero, Pino Bressimo, vorrei ascoltarti di più per poter imparare. Grazie Marta, è il mio cognome, mi aiuta molto in questo. Salve, in ascolto da poco, non so se siete in diretta, siamo in diretta. A proposito di leader, cosa diciamo delle leggendarie pause di Bettino Craxi? Andrea, sì, faceva delle pause, ma anche quelle erano pause non studiate, quella era naturalezza nell'esposizione. Vedi, anche i grandi leader politici si sono spostati, prima avevano una capacità vocale anche più importante, mantenendo tanti il loro dialetto, che secondo me non è mai sempre troppo giusto, bisogna mantenere il proprio dialetto perché è importante, cioè le proprie radici vanno salvaguardate assolutamente, però quando si fa un lavoro dove dove si è a contatto con una moltitudine di persone esterne di qualsiasi tipo di dialetto e anche di lingua, è giusto mantenere un linguaggio italiano corretto. Saluto a tutti voi, complimenti, vi ringraziamo tanto. Grande Frankie, nel tuo caso, quando ti sei accorto, per esempio, di essere diventato un leader nel tuo ambiente? Tu hai cominciato anche tu dalla base, ovviamente, piano piano, e ti sei costruito questa grande credibilità su un passaparola importante. Sì. Io ti ho visto sul palco e tuoni come un leader, sei in grande ironia. Quando te ne sei accorto? Quando te ne accorgi che sei diventato persona dove le persone pendono dalle tue labbra da quel punto di vista? Beh, te ne accorgi ovviamente solo quando non è che ti puoi autoproclamare, sì, non sono è che leader, sei... sì, non è che te lo puoi dire da solo, nel senso, sei un leader nel momento in cui questa cosa ti viene riconosciuta dagli altri, quindi vedi che tu fai delle cose, queste cose hanno un impatto sulla vita degli altri, gli altri te lo riconoscono, come vedi la gente ringrazia, chiama e fa quant'altro, e quindi le persone si accorgono che quello che tu stai dando in realtà modifica in meglio la loro vita, porta dei miglioramenti, li aiuta praticamente in ciò che loro stanno cercando di fare, quindi la gente comincia a seguirti, quindi te ne accorgi nel momento in cui tu stai facendo c'è delle cose. C'è il brivido, cose. C'è quell'empatia che c'è anche con noi a teatro, ti accorgi che ti stanno seguendo, perché anche se sono in silenzio senti quell'empatia e quel brivido e il battito che deve essere all'unisono fra te e loro. Se riesci a far respirare le persone con te, è fatta. Sembra una cosa folle, ma diventa una persona soltanto gli astanti che hai di fronte. Quando riesci a coinvolgerli, a farli respirare con te, è fatta. Hai vinto, sei leader da quel punto di vista. Mi congratulo con Frank, lo seguo molto, condivido la sua sottolineatura della mancanza di professionalità degli imprenditori italiani. Ah, ecco, dici un saluto da Giordano Damiani, si firma. Tu, sì, sì. Questo è un tuo, l'hai detto tu, insomma, condividi. Sì, perché nel libro magari oppure negli interventi, nel blog parliamo di queste cose, però io vorrei spezzare un secondo una lancia a favore per esempio degli imprenditori, nel senso che tu mi conosci molto bene da questo punto di vista, sai che ho un bruttissimo rapporto con la maggior parte dei manager per un motivo di leadership, nel senso che l'imprenditore, per quanto magari poco educato, non conosca le cose, però è una persona che di solito cerca di fare qualcosa per il bene dell'azienda, perché sua ci mette il cuore, insomma ci mette la vita dentro, tante volte ci lavora 20 ore al giorno, sacrifica la famiglia, quant'altro. È veramente un problema il discorso della leadership, è molto sovrastimata questa cosa, i manager fanno un sacco di corsi per i manager, la leadership per il manager, ma il problema è che il manager ha un problema di fondo, nel senso che il manager non combatte come l'imprenditore una situazione di crisi o di difficoltà dell'esterno, il manager la sua battaglia la fa con se stesso e il collega che gli vuole fregare la sedia, quello di sotto che lo vuole scalzare, e quindi è molto difficile per un manager, che è una persona che prende uno stipendio per difendere la sua poltrona, diventare leader per qualcuno, perché in realtà lui innanzitutto combatte per se stesso, il leader combatte per gli altri, comunque è davanti per gli altri, e quindi è molto, quando la gente mi dice ma tu andresti, no, non ci parlo io con questa persona, perché questa persona ha obiettivi che sono assolutamente personali, quindi io non riesco a condividere con lui una battaglia. Il brand si perde e diventa il brand personale della sua posizione. Sì. Succede spesso anche questo. Allora signori, mi raccomando, rimanete tutto il pomeriggio con noi, abbiamo, come ho detto prima, degli ospiti straordinari, abbiamo cominciato subito con il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda l'imprenditoria e la leadership nella voce, nei rapporti con le grandi aziende, che è Frank Merenda, dopo avremo un grandissimo direttore di doppiaggio, attore, doppiatore come Rodolfo Bianchi, una delle voci più affascinanti del panorama del nostro mondo, avremo il grande Dino Zoff in diretta con noi, un altro grande leader, avremo il grandissimo astronauta, che già il fatto di essere astronauti è Umberto Guidoni, insomma tantissimi, insomma Voice Anatomy è appena cominciata. Sanatomi. E ora signori, entrate in cuffia. Potremo parlare soltanto con lui in questa maniera. Sto parlando di Umberto Guidoni. È nato a Roma il 18 agosto del 54, è un astronauta, astrofisico e scrittore italiano. Ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle. Nel 2001 è stato il primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale ed è stato anche europarlamentare dal 2004 al 2009. Onorificenze, commendatore all'Ordine del Merito della Repubblica, nominato dal Presidente ovviamente, riceve lo Space Flight Medal nel 96 per il primo volo orbitale a bordo della Columbia, ottiene la seconda medaglia dopo il suo volo a bordo della... insomma, signori, sono veramente contento di ospitare e dire Voice Anatomy, Radio 24, we have a problem. Umberto Guidoni, benvenuto. Grazie. Grazie, grazie, buongiorno. Beh, una presentazione che era giusta e doverosa, anche perché veramente è emozionante. Cioè, ci sono tante cose che emozionano. La voce è sicuramente un elemento che emoziona, ma la voce abbinata a un astronauta nella fantasia e nell'immaginario collettivo è straordinaria, nel senso che poi quella che arriva, l'importante è che arrivi la vostra voce quando parlate da lassù, non è vero Umberto? Sicuramente così, ed ancora più così, diciamo, quando io ho fatto i primi lavori, in cui in effetti le immagini erano scarse e si usava soprattutto la voce per parlare con il centro di controllo. Dio mio, qual è stata la prima comunicazione che hai ricevuto nello spazio? Cioè, all'inizio si parte e non c'è nessun contatto, ovviamente. C'è un momento di buio vocale e poi si ricomincia a parlare come succede nei film, oppure si può parlare sempre dal 10, 9, 11, eccetera, 1, 0, si parte e da lì il silenzio, oppure si può già cominciare a parlare, o tu ascolti soltanto? Nei primissimi minuti le cose avvengono talmente in modo così rapido che è meglio non parlare, nel senso che non c'è tanto tempo per parlare. In teoria fiato. Però si può parlare se fosse necessario, ma le comunicazioni vengono ridotte al minimo proprio per lasciare, diciamo così, la possibilità, se c'è un'emergenza, di poter parlare su quella rete. Quindi i contatti con la Terra avvengono regolarmente, ma in genere se non c'è motivo non si parla, si sta in silenzio. Senti, un bel importante, quello è importante, il silenzio quando è voluto, non quando non ci sono, esatto, comunicazioni. Ma sai, esatto, noi siamo presi dal cinema da quel punto di vista, no? Che poi assomiglia alla realtà. Senti Umberto, quando hai deciso di diventare un astronauta? Perché un bambino lo dice, sai, che vuoi fare da grande? Mio figlio mi disse, l'astronauta o il benzinaio? Ho detto, c'è idee un po' confuse, decidiamo un attimo se vuoi mettere benzina allo shuttle o esserci dentro, insomma. Tu quando l'hai deciso? Come è successo? Io ero ovviamente un poco più che un bambino quando leggevo fantascienza e quindi sognavo questi viaggi nello spazio, no? Dai fumetti ai romanzi. Poi in realtà mi sono reso conto veramente che poteva essere vero quando gli uomini sono sbarcati sulla Luna. Allora ero già un pochino più grande, avevo 15 anni, e ho detto, beh, io da grande voglio veramente fare l'astronauta. Crescendo però mi sono reso conto che gli astronauti erano gli americani e i russi negli anni 80, certo. E quindi ho detto, vabbè, faccio la cosa più vicina allo spazio, studio le stelle, divento un astrofisico, e così ho fatto. E poi qual è stato il percorso? Esatto, qual è stato il percorso? Ho ripreso quel sogno molti anni dopo, quando ero già un ricercatore, diciamo, presso un ente di ricerca italiano, ci fu la possibilità di far volare un satellite su cui io stavo lavorando a bordo dello shuttle, dello space shuttle americano, e quella fu l'occasione anche per selezionare il primo astronauta italiano. Quindi io, era un concorso pubblico, quindi io ho mandato la mia letterina, diciamo, per partecipare. Che bello, un concorso pubblico, era abbastanza convinto che era un concorso pubblico, mi avrebbero, diciamo, escluso alle visite mediche. Non ho detto niente a nessuno perché non deve preoccuparli, certo, perché tanto non mi prenderanno mai, anche perché credo, esatto, che le visite mediche sono veramente, non è che devi fare, dici, una piccola tacchetta, dico, un'analisi del sangue e nell'esame della vista, ok, puoi essere un astronauta. No, non è così. No, infatti sono visite che durano diverse settimane, fra visite mediche, visite psicoattitudinali, e quella è, diciamo così, l'elemento su cui viene selezionata la maggior parte, nel senso che vengono scartate la maggior parte delle persone. Quelli che rimangono vengono poi fatti tutti gli altri test che riguardano anche la preparazione professionale, perché, certo, ovviamente chi va a fare quel lavoro ha già un background professionale importante, perché sono due categorie, o sono piloti militari, certo, o sono scienziati, quindi fanno ricerca da qualche parte. Mi piace moltissimo, la trasmissione è Voice Anatomy ovviamente, però quando abbiamo anche dei personaggi, prima di affrontare il tema della vocalità e della voce eccetera, mi piace che uno racconti se stesso in un certo modo, anche perché quello lo fa con la voce, ovviamente lo sta facendo, e la maniera più carina è più, e poi è una voce molto bella, molto, ma bella nel senso, è dolce la tua voce, Umberto, te lo dico da maschio vero, insomma. Non è... Da chi ha una voce bella invece impostata, bella. No, ma non serve, sai, non è che nello spazio uno comincia a dire, buongiorno, sono qui dalla Luna, vi sto trasmettendo, non è così, insomma, qui c'è sempre Frank Merenda al mio fianco che mi accompagna in questo viaggio. Senti, Umberto, durante la permanenza in assenza di gravità, Che mi ha fatto sempre ridere questa cosa. Quando manca la gravità tutto e poi fa male, però dice non c'è gravità, per cui non c'è nessun problema. Ma a parte questa stupidaggine, cioè il fisico deve affrontare quotidianamente numerose sfide, e anche la tua voce ha subito dei cambiamenti, è stata messa alla prova da condizioni così estreme? Ma diciamo la voce in sé no, perché sei comunque in un ambiente pressurizzato e quindi diciamo è come se fossi dentro casa tua dal punto di vista delle condizioni all'esterno. Sì, sì, sono punti di vista, sono punti di vista. Da casa mia non si vedono le stelle così bene. No, nel senso che se stai in un ambiente, per esempio, che ne so, ha visto la prova dell'elio, no, che ti viene la voce da paperino, non sì, è così, non è così. Come sulla Terra, dal punto di vista almeno dell'atmosfera. Chiaramente l'assenza di peso cambia un po' la percezione che tu hai del mondo che ti circonda. Per esempio puoi stare a testa in giù e non rendertene conto, perché non hai il peso alla testa che hai normalmente qui sulla Terra. Ma scusi, ma sono molto affascinato da questo racconto, e anche le persone a casa sono sicuro, perché sì, mi piace, ripeto, della voce sicuramente, ma il fatto dell'emozione di stare senza peso, a me prenderebbe un'angoscia, la voce non uscirebbe da quel casco, non riuscirei a parlare con nessuno. Deve essere proprio una condizione, non so, diventa normale per te affrontare quella di, anche perché farete delle prove tanto tempo prima. Quanto ci mettete prima di imbarcarvi poi su uno shuttle? Ci vogliono anni di preparazione. Ti prepari ovviamente perché devi conoscere la macchina su cui volerai, che è una macchina complicata, piena di computer, di sistemi complessi, quindi li devi conoscere bene perché devi poter intervenire se c'è un problema. Però in realtà la cosa che provi di meno è proprio l'assenza di peso, cioè il fatto, quella non si può provare sulla Terra se non sugli aerei. Certo. Che fanno praticamente delle grandi montagne russe. Non me ne parlare. Stanno cadendo, mentre stai cadendo dalla montagna russa per qualche chilometro, lì puoi provare a galleggiare per qualche decina di secondi. Certo. Che però non è uguale a quando sarai poi nello spazio, perché nello spazio, quando sei in assenza di peso, non è solo la voce che cambia, ma tutto il corpo. Pensa soltanto al fatto che il sangue si sposta verso l'alto. Oh, finalmente riuscirei ad avere dei pensieri nello spazio io, allora, a questo punto, vedi? Il contatto diviene un bel mal di testa, è come stare a testa in giù per tanto tempo. Mamma mia, non ci posso, però non c'è peso, lì a quel punto puoi essere ingrassato come vuoi, non te ne accorgi, mantieni una certa linea. Senti Umberto, nello spazio, noi parliamo oggi di leadership, che è una tematica decisamente importante. È importante l'utilizzo della voce, agevola il rispetto dei ruoli all'interno di un team? Cioè, lì all'interno c'è un leader, c'è comunque chi si impone fra virgolette, ovviamente lì è una grande collaborazione, anche perché se non fosse così sarebbe un disastro davvero, altro che Alien. Ma c'è una, hai riconosciuto negli altri, magari, o in te stesso, una leadership vocale da quel punto di vista? Beh, sicuramente ci sono dei ruoli, c'è ovviamente la leadership, e il responsabile di tutta la missione è il comandante della missione. Certo. Però ciascuno nel suo ambito è un leader, nel senso che quando si tratta di fare una cosa in cui io ero il responsabile, ero io che decidevo come farla, sempre seguendo ovviamente le procedure della NASA. E devo dire che la comunicazione è importante ed è una cosa su cui ci si abitua ad essere efficaci e utilizzando il minor numero possibile di parole, proprio per le ragioni che dicevo prima, per non ingolfare, diciamo, la linea di comunicazione. Quindi bisogna dire le cose con precisione e anche col tono giusto, per dire che, diciamo, è definitivo, non ci sono, come non dire, ci sono problemi. Esatto. Senta, voi parlate ovviamente in inglese, la lingua... Sì, l'inglese è la lingua ufficiale dello spazio, diciamo, o il russo se vuoi sui veicoli russi. Ah, cioè tu parli perfettamente tutti e due? Russo, no, perfettamente tutti e due mi pare un'affermazione forte. Diciamo che parlo discretamente l'inglese, il russo appena appena. Ecco, a me già non mi avrebbero preso, io li doppio quelli inglesi e quelli russi, per cui li metto in italiano. Senti, vicino a me c'è Frank Merenda, che a proposito di efficacia è uno che se ne intende, di leadership, eccetera. E che cosa hai da chiedere qualcosa al nostro grande astrofisico, astronauta? Ciao Umberto, innanzitutto. Ciao, ti volevo fare questa domanda. Visto che parlavamo di leadership all'interno della trasmissione, oltre che dell'uso della voce, ovviamente, e andare nello spazio è un mestiere da leader, la possiamo girare come ti pare, ma tu sei andato, tu sei nello spazio, parliamo di cose serie. Io ti volevo fare questa domanda, ma com'è nata per te il desiderio di vedere il mondo, vedere la Terra dallo spazio? Cioè, quando eri bambino, qualcosa del genere. Come è nato in te il sogno, in realtà, di diventare un leader spaziale? È stato uno scambio di biberone, cominciato col whisky e da lì hai cominciato a vedere altre cose, oppure è proprio stata una scelta? Hai visto Goldrake quando eri bambino? No, so, che è successo? Era già grande. Era già grande. Noi avevamo la TV dei ragazzi il pomeriggio per 2 ore e se facevano uno sceneggiato dovevi ringraziare il cielo. Guarda. Sì, esatto. No, diciamo che era una passione fin da ragazzo, però l'idea veramente di andare a esplorare ai limiti della conoscenza, quella un po' c'è anche nel mestiere di scienziato. È chiaro che la differenza è che qui, come dire, metti anche la tua vita in prima linea, perché andare nello spazio può essere pericoloso, come purtroppo poi gli incidenti hanno dimostrato anche sulla bordo dello shuttle. Certo. Io ho volato sul Columbia, la mia prima missione, il Columbia è quello che andavo distrutto nel 2003, quindi sì, chiaramente purtroppo sappiamo che ci sono ancora dei rischi, però ecco, siamo preparati ad affrontarli. E in questo senso la leadership conta, perché appunto spesso bisogna prendere decisioni difficili e basta, non si può mettere i voti, insomma. Tu hai parlato con la tua famiglia da lassù, ti hanno messo in guardate, io vedi, sono le fantasie di un bambino, non le domande di un giornalista, nel senso, essendo vicino a quei film straordinari che ci hanno fatto conoscere la vostra vita attraverso la finzione, c'è il momento del collegamento a casa, ci saranno stati, immagino. Sì. Sono stati, devo dire, appunto, quando io ho volato la prima volta nel 96 era possibile un solo collegamento in tutta la durata della missione, che era circa di 2 settimane. Oggi, grazie anche a internet, non c'era campo lì, non si prendeva bene, no, c'erano 3 tacchette, prendevi, dici? No, perché quando parli con la famiglia praticamente si ferma l'attività della NASA almeno su uno dei due canali, perché sono due canali di comunicazione, uno è quello, diciamo, generale, su cui viaggia tutto, certo, ed è quello pubblico, e l'altro è quello riservato per la parte medica. Insomma, Umberto, non si può litigare con la moglie, ecco, non c'è tempo. No, insomma, non si può litigare con la moglie, anche perché lo vedono tutti. Ma certo, come stai? Bene, amore, tu? Bene, quando torni? Dipende, c'è un traffico quassù, sai com'è, a quest'ora nello spazio c'è il rientro. Senti, esatto, farti un'altra domanda prima di salutarci, Umberto. Sei stato anche europarlamentare, no? E quali sono le similitudini relativamente al concetto di leadership tra la carriera politica e quella di astronauta? Quali invece le differenze? Insomma, sono due tipi di leader molto importanti. Assolutamente, sì. Diciamo, la differenza principale è che mentre per quanto riguarda l'addestramento per diventare astronauta, quindi tutto il lavoro di preparazione, in qualche modo sei guidato, quindi devi ovviamente fare dei sacrifici, ti devi impegnare, devi studiare, cioè, però diciamo così le tappe sono previste e sai che alla fine c'è il volo. In politica non c'è niente del genere, non sai bene quello che ti aspetta, te la devi cavare da solo, però è chiaro che anche lì, per avere il rispetto delle persone, te lo devi guadagnare dimostrandogli le capacità di leader e anche le capacità di affrontare i problemi, diciamo, anche se in questo caso si tratta di problemi politici, mentre nell'altro caso si tratta di problemi tecnici. Sì, insomma, i problemi tecnici dall'altra parte creano delle difficoltà terrificanti, anche fisiche, poi all'ultimo, visto certo, che insomma c'è bisogno di rientrare a casa. Ma tu hai fatto queste due cose, le stai facendo. Adesso dove sei impegnato, Umberto? Adesso mi occupo praticamente a tempo pieno di divulgazione scientifica, vado spesso nelle scuole, porto un po' la mia testimonianza, l'esperienza come astronauta, ma in generale parlo della ricerca, perché penso che sia una cosa che può appassionare i bambini fin da piccoli, ed è così che si creano poi le vocazioni, è così che poi si diventa, diciamo, ma non necessariamente astronauti, certo, ingegneri, fisici, medici e tutto quello che serve. Per cui la tua voce adesso è fuori dal casco ed ha un'importanza fondamentale per la formazione, quello è molto bello tutto questo. Umberto, noi ti ringraziamo del tempo che ci hai regalato, che ci hai donato, veramente, cercheremo anche di io avrei 1000 domande da farti, che esulano un po' dal tema di questa trasmissione, ma dobbiamo rimanere all'interno di questo. Però intanto, in bocca al lupo, buona divulgazione, buona voce a te, buon tutto, caro Umberto, buon viaggio, e grazie del viaggio che ci hai regalato oggi pomeriggio. Umberto Guidoni, in diretta a Radio 24 a Voice Anatomy, al mio fianco sempre Frank Merenda. Ci salutiamo per pochissimo, rimanete con noi perché Voice Anatomy è appena cominciata. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Voice Voice Anatomy. Bentornati signore e signori a Voice Anatomy, Radio 24, sono le 15:16:55, siamo assolutamente in diretta, al mio fianco rimane sempre Frank Merenda, un po' più sorridente perché è del Sassuolo e io non dovrei parlare di calcio perché... non mi va più di fargli delle domande, sto ancora un blocco con lui, io lo blocco perché esce l'uomo e finisce il conduttore. Ci sono tantissimi messaggi ovviamente relativi alla presenza di Frank Merenda che io non leggerò, leggerò invece un altro messaggio che dice un passo fuori, libro di Guidoni è nella mia libreria, la sua voce piace perché è di persona vera, sincera, non artefatta, non montata, è un bellissima, va bene Andrea, e poi chiedo per vendere se stessi senza vendere, cioè farsi richiedere quando non si è noti, cosa consiglia Frank? Ma non so, è un po' contorta, ma ci sono no, tante... è corretto, è interessante. Allora, per farsi richiedere quando non si è noti, è molto importante, soprattutto all'inizio, dare tanto, cioè scambiare in tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione, chiaramente non può partire arrivando in radio, in televisione, nemmeno io ho cominciato così ovviamente. Si parte con quelli che sono i mezzi di comunicazione e di diffusione delle proprie notizie, che sono quelli più semplici. Oggi ci sono i social media, o social media a seconda di come la gente li voglia pronunciare. E io ho cominciato così, cioè regalando materiale gratuito di informazione, quindi di formazione, attraverso il mio blog, attraverso i miei blog, che dopo sono moltiplicati. Non utilizzavi la voce soltanto messaggi o anche la voce, già anche lì? Anche la voce, perché all'inizio io sono partito con il blog, ovviamente c'erano quelli che sono gli articoli scritti, e poi ci sono i podcast, io ho partecipato, partecipo ancora oggi. Beh, molti sono podcast. Sempre i primi posti, infatti. Sì, Business Caffeina, per esempio, se ti ricordi. Questa volta ti abbiamo battuto, ma perché tu eri ospite, per cui c'eri sempre, comunque, sì. Vabbè. Nella squadra, diciamo, io ci sono. Sì, però. Anche oggi stai vincendo, ma la domenica è ancora lunga. Va bene, non c'entra niente. Allora abbiamo una telefonata. Roberto da Rovigo, benvenuto Roberto. Pronto? Ciao Pino, ciao Francuzzo. Francuzzo addirittura, va bene. La domanda, caro ciao, Robertuccio. Frank. Ciao Roberto. Ciao Robby, ma che è tuo fratello? Ma che dai? Capito, ma questi mi chiamano. Ho capito. Mi chiamo Roberto Grandi, se mi conosce Frank. È un mio persecutore seriale, diciamo. Ah, ho capito, anche tu hai questa stalking. È terribile sta cosa. Vabbè, ma c'hai tanta gente che ti segue ovviamente. Allora Roberto, la domanda al Franchino che è qui, caro Robertuzzo, vai. Allora Frank, siccome c'è una categoria di persone che lui... Una categoria di seri lavoratori che lui a volte non apprezza, no, ma che effettivamente ha ragione a apprezzare, che tutto quello che è l'ambito del mondo del network marketing. No, te no? Prego, però, no, pure qua no. Piano, io dimmi. Perché dico questo? Sì. Perché in realtà non è che voglio parlare del network marketing, ma effettivamente della leadership nel network marketing. E siccome il leader di network marketing spesso è un leader da palco, no? Che si mette davanti a un palco e parla a persone, non voglio esprimere, no? Ma questa leadership cosa deve avere per essere veramente una vera leadership, un vero strumento di miglioramento degli altri? In questo ambiente cosa deve avere di più? Beh, allora Robby, il problema è, e ci sposta nel secondo punto, perché io ho iniziato la puntata citando il primo punto della leadership. Il secondo punto importante della leadership, il leader si costruisce nel lungo periodo quando ha un'altra caratteristica, che è l'essere incorruttibile. Questo è il vero valore del leader, nel senso che nel tempo tutte le persone che conquistano un punto di leadership nei confronti delle persone lo vanno a perdere quando diventano corruttibili. Questo vale sia nella politica, nel senso il politico viene corrotto per esempio, o semplicemente si vende a un altro partito politico opposto semplicemente per un'opportunità di poltrona. Stessa cosa vale con i manager, quando in realtà non difendono chi dovrebbero difendere perché in realtà questa cosa non gli conviene, quindi diventano calcolatori. Nel network marketing è la stessa cosa, cioè chi ha veramente successo, se ci fai caso, nel lungo periodo sono persone che rimangono fedeli a un ideale, non dico necessariamente solo per forza fedele a un'azienda, però nel tempo nel network marketing è un'attività di business nella quale i leader o presunti tali in realtà, quindi semplicemente i capo bastone, mi dà fastidio anche chiamare leader, è gente che cambia azienda o cambia prodotto più velocemente di quanto io mi cambio le mutande, quindi diventa un problema. Sì, devi essere un po' più chiaro però quando parli Frank, perché utilizzi questa una metafora? No, sai che sono... Sei molto diretto, no, sì. Ma quello sicuramente. E quindi questo è un problema, cioè nel senso il rimanere fedele a un proprio ideale, rimanere incorruttibile nel tempo, diventa ciò che crea il leader. Per tornare al volo, per esempio, degli esempi politici, no? la Lega ha cominciato a perdere voti quando, entrando in politica, dopo è diventata integrata al sistema, no? Prima era contro Roma Ladrona e poi dopo hanno cominciato a mangiare pullo d'oro, a fare tutte quelle cose lì, e quindi diventa veramente un problema. Tutti gli altri partiti politici tendono ad avere questo caro problema. Frank, per noi Radio 24 è finisce finita. Qui no, oggi invece prendi per esempio il ritorno della Lega, no? Con Salvini, sì. È perché è tornata ad avere un ideale. Una volta ce l'avevano con Roma Ladrona e quant'altro, oggi Salvini se la prende con il problema degli immigrati. Però c'è sempre un punto forte, che poi sia condivisibile o meno, di contrapposizione rispetto a qualcosa che non va bene. Oggi il punto forte della Lega è ha ritrovato un leader forte in questa persona che ce l'ha contro il problema dell'immigrazione, prima gli italiani, condivisibile o meno, lo sappiamo. Stiamo parlando di leadership e di voce nella leadership, per cui è completamente asettica e oggettiva, sì, questa analisi, non vuole essere un'analisi sociopolitica, assolutamente. In effetti anche prima, per esempio, il primo leader della Lega aveva una voce particolare, arrabbiata, era già di default in quella maniera, per cui già comunque convinceva per un certo, poi purtroppo è successo qualcosa che ha modificato lo status se fisico, prendi anche ovviamente. Le corde, no, che vanno a toccare i vari leader, tu ascolti un discorso di Martin Luther King, è diverso dal tono di voce che ha Beppe Grillo, per esempio, piuttosto che Bossi, perché alcune persone cercano di toccare dei toni che tendono ad essere quasi esclusivamente di rabbia, quindi di rigetto, altre persone cercano di toccare le corde dell'ispirazione, quindi vanno a lavorare su aspetti che sono differenti, quindi ti accorgi anche di questa differenza. Va bene, va bene. Allora c'è un'altra cosa che non capisco, spesso che cosa pensa Frank della leadership, del leader che vive nella scatola. Grazie. Del leader che vive nella scatola. Non lo so, forse ce l'ha quei gremlins, non lo so. Comunque, andiamo avanti. No, pensavo che fosse una citazione di qualche tuo libro. Forse stava parlando di rimanere nella scatola, nel senso pensare fuori dalla scatola. Quindi i leader che non cambiano mai idea eventualmente. Ah. E se vogliamo vederla in questa maniera, il leader deve rimanere fedele a un ideale e però essere capace di mettersi in discussione in prima persona e cambiare idea da quel punto di vista. Insomma, Aragorn non poteva passare da Saruman allo stesso modo. Insomma, no, non poteva. Devo rimanere lì. No, sta là. C'è Marco da Pesaro al telefono, pronto? Sì, ciao Pino, ciao Frank, sono ciao Marco da Pesaro. Vai Marco, dici tutto. Io non ho seguito la trasmissione dall'inizio, io volevo fare una semplice domanda. Volevo capire quanto può essere importante l'utilizzo di un tono di voce corretto, di un'impostazione corretta, e se c'è anche la possibilità di studiarci dietro per una trattativa di vendita, quindi quando siamo di fronte ad un cliente, quando stiamo affrontando il cliente per la prima volta e tutto quello che ne consegue, appunto capire se c'è il caso anche di studiare come migliorare l'impostazione, quale tono utilizzare per poter cercare tra virgolette di convincere il cliente a scegliere me piuttosto che un concorrente, e se è un elemento che può fare la differenza alla fine della trattativa. Tutto qua, saluto ancora Pino e Frank soprattutto, perché lo seguo ormai da un po' di tempo. Grazie Marco. Grazie Marco. Se abbiamo di stalker, sei proprio assolutamente ti amano, vai. Allora Marco, il concetto è questo: io durante uno dei miei corsi ho avuto il piacere di avere come ospite Ciro Imparato, che mi fa piacere ricordare in questo frangente perché la trasmissione è dedicata alla voce, e Ciro Imparato è stato un insegnante grandissimo, un doppiatore, quindi anche collega di Pino da questo punto di vista, che ha portato avanti nel corso degli anni uno studio molto importante legato all'utilizzo della voce, anche non solo ovviamente perché il suo studio era molto vasto, però anche in ambito business. Io l'ho avuto come ospite a uno dei miei corsi di vendita, fece un intervento straordinario e potete andare, penso, su Amazon o su qualunque libreria online o in libreria, ci sono i suoi libri, La voce può cambiare la tua vita, sono La voce verde della calma, ha scritto dei libri che sono straordinari, io mi permetto di consegnarli a tutti, proprio perché Ciro era integrato anche al mondo stesso. Stiamo parlando di Ciro Imparato, infatti ti ringrazio di averlo fatto spontaneamente, l'avremmo fatto, anche perché arrivano parecchi messaggi, adesso era già il quarto o quinto messaggio, che per favore un ricordo di Ciro Imparato, siete grandi eccetera eccetera, lo stiamo facendo senza aver letto ovviamente il messaggio, senza essere stati spinti ovviamente da qualcosa di esterno. No, perché Ciro è stato mio ospite chiaramente all'interno di Venitore Vincente e fece questo intervento meraviglioso, adesso cercherò di recuperarlo perché da qualche parte dovremmo averlo e cercherò di divulgarlo proprio in suo ricordo. E a proposito, insomma, anche di questa cosa del libro, c'è molta gente che sta chiamando per sapere del tuo libro, dove si può trovare e... Allora, il mio libro si può trovare perché in questo momento è in esclusiva su Il Giardino dei Libri, che è uno shop online, si trova solo lì in questo momento, c'era anche su Amazon, mi è andato esaurito mi sembra in questo momento, quindi chi lo vuole acquistare va su Il Giardino dei Libri e online lo trova lì, insomma. Il libro di Frank Merenda. Vendere fa schifo, se non sai come farlo. Certo, il titolo è tutto un programma. Volevo chiudere quest'altro momento insieme a te, poi rimarrei ovviamente al mio fianco, con una domanda a proposito sempre della leadership, a proposito della voce. Ma come si gestisce una crisi? Cioè, il momento più importante di un leader è come sa gestire una crisi. Sai, finché va tutto bene, si vince, va tutto bene. Ma la crisi, quando arriva, che fa? La voce si spezza? Si spezza il fisico? Che succede? La crisi è veramente devastante, perché ovviamente ti causa una turbolenza anche interna molto forte. Quindi anche lì, saper utilizzare la voce giusta, anche se tu te la stai facendo addosso, diventa veramente importante, perché sei la persona che deve trasferire sicurezza, serenità agli altri. Il generale, c'è una guerra, sono di fronte a te 1000 persone e tu sei soltanto 100 soldati. E tu devi stare là lo stesso. Cioè, come Leonida, no? Alle Termopili, la stessa. Non è che poteva dire, vabbè, ragazzi, proviamo, andiamo a vedere piano piano. No, bisognava stare lì, ovviamente, anche se gli altri erano molti di più. E quindi la leadership viene fuori nei momenti di crisi, nasce nei momenti di crisi e torna fuori nei momenti di crisi. Quindi quando è che si riconosce un non leader? Un non leader te ne accorgi perché, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, la leadership nasce dalla necessità di una reazione a un momento di difficoltà. E quindi il leader che non riesce più a essere leader nel momento di difficoltà non è un leader per definizione, perché se ti caghi addosso quando devi tirarlo fuori diventa veramente un problema. Come fai a essere un leader? Servi lì, quando va tutto bene sono capace anch'io, certo. Adesso che è difficile, che ho bisogno, se te ne vai io, sto qui vicino a te. Ma c'è una storiella stupidissima a proposito di leader, me l'ha fatta ricordare, voglio chiudere così con questa goliardata, questo momento, cioè questo momento di crisi estrema. Allora il generale fa: signori, avete davanti a voi 200 persone dell'esercito nemico, un elicottero davanti a loro, sopra di loro, e vicino a loro 100 fusti di benzina, che fate? Io? Tu? Chi sei? Sono Callaghan, signore. Da dove vieni? Dal Minnesota. Cosa fai? Allora io prendo l'unica pallottola che ho, sparo sull'elicottero che, cadendo sui bidoni di benzina, esplodono e muoiono tutti quanti. Bravo Callaghan! C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Sì, io. Chi sei? Mario. Da dove vieni? Da Roma. E che vuoi dire? A Callaghan. Ma vaffa. Ecco. Va bene. C'è stava tutta questa qui. Lasciate uscire ogni tanto la mia voce, quella un po' più lontana. Bene, signori, vi ricordo ancora il nostro numero per partecipare in diretta: 824-00-24. Voice Anatomy, vi aspettiamo. Aspettateci voi anche, mi raccomando. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Voice Anatomy. Bentornati, Voice Anatomy in diretta da Radio 24, sono le 15.33, al mio fianco sempre Frank Merenda, ma una puntata molto ricca, abbiamo ascoltato anche il grande astronauta, astrofisico Umberto Guidoni, abbiamo un altro grandissimo ospite, fra un po' torneremo anche a parlare di doppiaggio, di recitazione con un grandissimo direttore, adattatore, doppiatore che è Rodolfo Bianchi, più di 500 film doppiati, pensate un po'. Ma abbiamo, a proposito di leader, a proposito di voce, una voce inconfondibile in diretta qui a Radio 24, ma prima ve lo presento, prima di ascoltare la sua voce. Eccolo qua, lui è Dino Zoff. Ah, è nato a Mariano del Friuli il 28 febbraio, non dirò la data perché a un signore non si deve dire la data. È un grandissimo allenatore di calcio, dirigente sportivo, ex calciatore italiano, di ruolo portiere. Campione europeo nel 68, campione mondiale nell'82, vice campione mondiale nel 70 con la nazionale italiana e anche allenato dal 98 al 2000. È considerato uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Con la Juventus ha collezionato 330 presenze consecutive in Serie A, ha vinto 6 campionati italiani, una Coppa UEFA, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni e una di Coppa Intercontinentale. Che sogni che sono queste coppe, io non so se qui continuo a perdere la mia squadra. Va bene, è il vincitore più anziano della Coppa del Mondo, conquistata nel 82 all'età di 40 anni come capitano della nazionale italiana, è stato allenatore della nazionale olimpica, della Juventus dove ha vinto una Coppa UEFA, una Coppa Italia, e della SS Lazio di cui è stato anche presidente della nazionale maggiore, quindi anche della Fiorentina. Nel settembre 2014 pubblica la sua autobiografia Dura solo un attimo la gloria. Dino Zoff, è un piacere averti qui in diretta nei microfoni di Radio 24, benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, Piacere mio. Ti abbiamo strappato dal calcio per un attimo, eh? Ma lo sto guardando comunque. Certo, sarai distratto, la voce si sentirà, la tua voce è inconfondibile, però non si capisce se sarai distratto o meno. Per cui oggi stiamo parlando di leadership, la tua presenza è quanto mai azzeccata. Senti Dino, nel corso della tua carriera hai ricoperto ruoli diversi, come ho raccontato adesso tra loro, ma ovunque sei stato sempre un leader. Leader si nasce in questo caso o si diventa, eh? No, direi che a metà, perché il leader ha bisogno anche di qualità, di capacità, che poi dopo le mette proprio in evidenza nel leader, ecco. Poi ci vuole il carattere giusto, coraggio, serietà, forza, non aver paura delle cose, ecco, per queste secondo me. Senti Dino, noi siamo abituati a vedere i leader che impongono la propria forza attraverso una voce energica, a volte anche molto vibrante. La tua voce invece non lascia intendere violenza verbale, ma allo stesso tempo trasmette una grande sicurezza. È sempre stato così fra i pali? E anche fuori dai pali in bordo campo. Direi all'inizio mica tanto così, ho avuto qualche problemino all'inizio, eh. Poi dopo certamente mi sono tirato su bene. Cioè riuscivi a strillare, la tua difesa era governata dalla tua voce in qualche modo? Sì, però non è così importante, perché il portiere non ha i tempi. Non hai tempi quando la palla è al limite, eccetera, quindi non ti facevi sentire da là, insomma, non da centrocampo cominciavi a coordinare la tua difesa urlando. Sì, ma quando la palla è lontana, allora lì sì, è importante organizzarla, eccetera. Poi quando arriva la palla ai limiti dell'area non hai più tempo, devi stare attento proprio sulla palla, questo Per cui sei stato anche abbastanza energico. Sai, siamo abituati adesso a vedere, ormai ci sono 100 telecamere in campo, per cui leggiamo le labiali di chiunque, no? Per cui i portieri li vedi che urlano come dei pazzi anche quando quelli tirano da centrocampo. Il portiere se la prende sempre con qualcuno che gli ha permesso di fare questo, e si sente anche attraverso i microfoni. Non ti ho mai visto, non ti abbiamo mai visto in questa esagerazione vocale. C'è stato dei momenti in cui ti sarai arrabbiato veramente, magari con un centrale o col libero, il santo libero di una volta? No, guarda, io non mi arrabbiavo. Si molto. Sente, si sente, Dino. La tua serenità. Sì, però non accettavo che si arrabbiassero con me, ecco. Io credo che i silenzi in un leader sono molto più intensi certe volte. E Dino riesce a utilizzare la propria voce con questa serenità, ma incute comunque una grande sicurezza dall'altra parte. Cioè, tante volte erroneamente si pensa che la voce utilizzata urlando, strillando, faccia del male, come abbiamo detto anche prima, e sia quella che fa sentire la propria energia, la propria leadership in campo, qualsiasi campo, anche aziendale. Invece tante volte basta uno sguardo, no Dino? Sì, come sempre, l'importante è non esagerare, come hai detto prima te, che uno tira da metà campo, il portiere si arrabbia. È perché sa che c'è il primo piano, Dino. Prima non c'era sta situazione, adesso si sa che c'è uno stacco in primo piano del portiere, no? Sì. E allora adesso ci sono dei rallenti che sono pazzeschi, cioè dura un quarto d'ora un'azione di 20 secondi, per cui uno sta attento a tutto. Ma tu sei stato capitano, ovviamente, per cui eri tu che parlavi con l'arbitro. Usavi lo stesso tipo di vocalità con l'arbitro rispetto alla tua squadra, oppure? No, molto, molto più rispetto, perché il rispetto ti aiuta, hai capito? Certo. Con rispetto magari mi fai presente con educazione, magari senza far vedere agli altri che vai vicino a parlare, mm-hmm. e quindi l'arbitro ne tiene conto di questo, che non lo metti in imbarazzo. Certo, quello è importante, non mettere in imbarazzo l'arbitro, che qualcuno, noi li inviteremo anche, degli arbitri che sono anche vocalmente importanti. L'amico Stefano Farina fa anche un grandissimo mestiere di formatore, e lo avremo anche lui presto ospite di questa trasmissione, mi ha raccontato alcuni piccoli segreti di cosa fa l'arbitro in campo, soprattutto con i leader delle altre squadre, in che modo si interfaccia vocalmente con i leader delle squadre che affronta. Però me lo farò raccontare da lui, perché non vorrei dire cose che magari potevano essere soltanto delle piccole confidenze durante un buon piatto di pasta asciutta, Dino, per cui non mi permetto. Senti, è la voce nello spogliatoio, perché poi sei stato un grandissimo allenatore, insomma. No, ma sai, io sempre calmo, non assavi mai i toni. No, o serve, no, a volte, non serve mai. Nello spogliatoio c'è l'allenatore, che io ho creduto sempre nelle regole per far funzionare le cose. Uno non può prevaricare il potere dell'altro, hai capito? Quello sicuramente. Comincio a parlare io, perché non deve parlare. Quando sei stato allenatore, però, utilizzavi gli stessi toni, sempre l'educazione, questa è il tuo, sì, sì, è la tua proprio dominanza assoluta vocale, perché ti ascolti, anche noi in teatro, quando vediamo che il pubblico è distratto, non alziamo la voce, la abbassiamo di più, proprio per attirare ancora di più l'attenzione delle persone, che altrimenti rischi di metterti a loro pari e si perderebbe. Insomma, non mi facevi Al Pacino in ogni maledetta domenica, insomma, non utilizzavi questi monologhi retorici per cercare di convincere la tua squadra ad alzare la testa, magari, no, no, durante una sconfitta. Utilizzavi sempre questi toni pacati, tranquilli. Sì, sì, sì. Perché i toni pacati sono, entrano più nella testa dei tuoi compagni. Eh sì, un certo volte c'è una penetrazione maggiore. Senti, Zoffe, cosa hai detto al presidente Pertini subito dopo la finale dell'82? E a Berzot, soprattutto, prima di entrare in campo, quali sono state le parole? Qui parliamo di voce, ma parliamo di parole. Qual è stato questo rapporto con il presidente dopo la vittoria? Ma sai, dopo la vittoria, prima di tutto, giocare a carte. Il giocare a carte ti mette tutti sullo stesso parametro, se vogliamo. Si litiga, però. A carte. Non conta essere presidente o qualcosa, certo, d'altro. Era briscola e 3-7, Dino? Briscola e 3-7 o scopone scientifico? Che cos'era? Scopone. Berzot com'era a livello vocale, il grande mister? No, anche lui era molto tranquillo, sì, era un po', si arrabbiava un po', a dire la verità, lui, sì, lui un po' più sanguigno da quel, sì, punto, sì, di vista. Sì, sì. E qual è stato il momento in cui tirare fuori le parole è stato veramente difficile per te, Dino? C'è stato un momento? Nel silenzio stampa, sì, che poi eravamo tutti convinti, noi giocatori, Berzot mica tanto, perché lui era un uomo istituzionale, di conseguenza non gli piaceva queste posizioni, però non ci ha mai detto niente, ecco. Ha rispettato la vostra scelta, opportuno. Ma ha portato, sì, dimmi, perché a dir la verità i giornalisti, insomma, erano di una cattiveria unica. E allora ha detto, noi abbiamo detto, ragazzi, qua adesso cerchiamo di non parlare più, quello che riusciamo a fare in campo vale. Ed è valso tanto, caro Dino. Senti, c'è qui a fianco a me l'amico Frank Merenda, grande leader da questo punto di vista delle vendite, eccetera. Ha una domanda prima di salutare Dino? Mister, salve, buonasera innanzitutto. Salve. Mister, io le volevo dire una cosa. Lei ha scritto questo libro dove il titolo in realtà fa intendere che la gloria dura solo un attimo, e questa è la sua autobiografia. Io volevo dirle questa cosa, nel senso che io sono nato in una generazione molto fortunata, perché nell'82 io avevo 6 anni, ero un bambino e stavo andando in prima elementare, e vedere lei alzare la Coppa del Mondo ha fatto credere a me come bambino e a tutti i ragazzi della mia generazione che tutto al mondo fosse possibile, e quindi io la volevo solo ringraziare. Grazie mister, è stato fantastico. Non è una domanda, è bella questa cosa, però vedi quante cose hai segnato. Prima di salutarti, Dino, tu hai conosciuto l'avvocato, è lui che leader era vocale, un leader fisico si vedeva. Un leader, pensa, che quando giocavamo a Torino veniva a prendere il caffè tra il primo e il secondo tempo, non l'ho mai sentito dire una cosa sopra le righe, mai, ma neanche neanche le cose che buona parte dei dirigenti dice, ragazzi, dai, forza, che ce la facciamo. Niente, diceva soltanto poco zucchero e basta. Nel caffè, non utilizzava altre parole. Beh, ma quei silenzi, anche quelli, anche quella è una voce. Abbiamo ascoltato la voce del silenzio, una grande canzone, ma anche una grande asserzione dal punto di vista vocale. Dino, ti lasciamo tornare al campionato di calcio che so che ami tanto. Mi permetto privatamente e pubblicamente di dare un abbraccio forte ad Anna, a tua moglie, alla tua signora, che invece vocalmente è straordinaria, ha più forza di me, di te messi insieme. Abbraccio tutta la tua famiglia, ovviamente. Grazie di questa tua testimonianza, grazie per averci legato questi minuti. Grazie a Dino Zoff. Grazie, grazie davvero. Grazie mister, grazie. E allora signori, le sorprese sono appena cominciate, stiamo entrando nel vivo della trasmissione e ci sentiamo tra pochissimo. Voice Anatomy. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Anatomy. Come ogni domenica in diretta su Radio 24, tanti sono i vostri messaggi, ma tanti sono i nostri ospiti. Non basterebbero veramente queste 2 ore e 40 insieme. Abbiamo un altro grandissimo ospite poi dall'altra parte del mondo quasi. Voglio presentarlo e poi ascoltare un piccolo file dedicato a lui e poi sentiremo la sua viva voce. Lui è Alessandro Campagna, che è stato uno dei 3 giocatori di pallanuoto più completi di tutti i tempi, oltre a tutti i grandi successi ottenuti nei club dove ha militato, Ortigia, Roma, eccetera. Con la nazionale ha giocato e pensato, ha giocato 409 partite ed è stato tra i protagonisti del grande slam, vincendo dal 92 al 95 le Olimpiadi di Barcellona, la Coppa Fina di Atene, i campionati europei di Sheffield e Vienna, i campionati mondiali di Roma con il mitico Sette Bello di Rudic. Nel dicembre 2000 è stato promosso alla guida del Sette Bello, con il quale nel 2001 ha vinto le medaglie d'argento agli europei di Budapest, ai giochi del Mediterraneo, Tunisi, quarta ai mondiali. A gennaio 2003 e all'agosto 2008 è stato allenatore della Grecia, con la quale ha conquistato numerosi piazzamenti nelle più prestigiose competizioni. Nel 2008 torna alla guida del Sette Bello Azzurro, conquistando il 5° posto nella World League 2009, il bronzo ai giochi del Mediterraneo 2009, l'argento agli europei 2010 e alla World League 2011 Firenze. Dopo 17 anni da Roma 1994 riporta il Sette Bello sul trono mondiale con l'oro conquistato da Shanghai nel 2011, seguito dal 4° posto agli europei di Eindhoven, dalla finale olimpica con l'argento di Londra, da un 4° posto, insomma signori, attualmente il CT della nazionale maggiore di pallanuoto maschile italiana e il nostro Sette Bello Azzurro. Ascoltiamo questo piccolo file e poi sentiamo la sua voce. Continuiamo con questa difesa, continuiamo pressing, torniamo da 3, poi si accoda o il 4 o il 2 a seconda di dov'è, d'accordo, e gli altri in mezzo, va bene questo rientro da 1 molto bene. In attacco con calma, con la preparazione, però voglio vedere le preparazioni dei passaggi, sempre con attività. Non molliamo un centimetro. Controllare il gioco non significa non giocare. E poi andare a tirare quando non si deve tirare. Non molliamo un centimetro, qui mi ricorda Al Pacino. Signori, è con noi il nostro amico, grande capitano, grande mister Sandro Campagna. Buongiorno, benvenuto. Buon pomeriggio, ciao Pino, che piacere essere vostro ospite. No, il piacere è tutto nostro. Allora, Sandro, in questo momento sappiamo che sei in Russia, sei appena atterrato e ti sei donato gentilmente a noi, grazie della tua disponibilità, ma soprattutto che stai a fare in Russia? Che fai? Stavo meglio a Roma stamattina, però dopodomani giochiamo la prima partita di World League, la prima partita della stagione 2015-2016, quindi con tutta la squadra siamo venuti qua, insomma stasera andiamo a fare una passeggiata sulla Piazza Rossa e poi da domani ci concentriamo. Coprite perché fa freddo. Fa freddo. 2-3 gradi e fa freddo. Non è male, 2-3 gradi in Russia. Contro chi giochiamo la prima partita? Con la Russia. Ah certo, siamo lì, ma io pensavo che fosse il luogo deputato per altri incontri, beh giustamente in Russia potevo, io certe volte la mia voce devo utilizzarla molto meno rispetto a quello che faccio. Senti Sandro, hai vissuto e continui a vivere una vita insomma fatta di successi ottenuti in uno sport, uno dei sport che credo, ma forse fra i più faticosi, per me il più faticoso. Io ho fatto l'ISEF e ogni tanto ho provato a reggermi a galla e sinceramente finché tocco in piscina va tutto bene. Quando si è accorto il professore che il salvamento lo facevo toccando coi piedi a terra, mi ha bocciato. Era il manichino? Sì, no, c'avevo proprio un compagno di classe che dovevo trasportarlo da una parte all'altra, da piscina olimpica al foro italico. Fino a che toccavo l'ho portato, poi ho detto amore mio, non sei svenuto, non stai a affogà, te salvi da solo. E l'ho lasciato. Senti, sia come giocatore che come commissario tecnico, insomma, tutti e due i ruoli, che rapporto hai immaturato? cambiato nel corso di questi anni con la leadership? Hai cambiato modo di essere dal campo dall'acqua a fuori acqua? Ma la leadership è una cosa naturale, non è che ti si impone, tu lo diventi se i tuoi compagni te lo permettono, nel senso perché hai una personalità tale, delle doti tecniche. Può essere anche un leader di natura sociale, perché è uno molto simpatico e racconta bene le barzellette. In un gruppo ci possono essere tanti leader. Sicuramente il fatto di essere stato un giocatore importante nell'Ortigio prima, come dicevi tu, nella Roma, nel club e soprattutto certo. In nazionale, sin da subito mi sono assunto anche delle responsabilità importanti. Poi quando vanno bene queste responsabilità, mano a mano cresce e cresce attorno a te il carisma che certo. Si trasmette agli altri. Acquisti la sicurezza. Senti, da commissario tecnico hai a disposizione soltanto la tua voce per trasmettere ai tuoi giocatori il tuo pensiero. In che modo la usi? Usi delle metodologie ricorrenti o gestisci in ogni caso a sé, insomma, a seconda dell'occasione? Io credo che la voce e la comunicazione in generale sia fondamentale, perché è importante quello che dici, come lo dici, la struttura delle tue idee, come parli e tutto, ma è molto più importante, anzi è fondamentale quello che ricevono i ragazzi, quello che capiscono, quello che recepiscono. E tu hai il feedback degli allenamenti, nelle partite, perché se non fanno quello che tu pensi, quello che tu dici, magari mi arrabbio lì per lì, ma cerco di sempre da leader capire dove ho sbagliato io, o nella comunicazione o nel non ho sfruttato adeguatamente la didattica che serve. Per cui l'alterni, esatto. Dino che è più tranquillo, esatto. Sempre, anche nella sconfitta. No, a proposito di sconfitta. No. Io uso bastone e carote. Ah, tu lo fai, insomma, le prendi. Poi, insomma, fisicamente sì. Sei insomma piccolino, insomma, sei anche un po' gracilino da quel punto di vista. E chi te direbbe mai di no? Io mi affogherei prima di uscire dall'acqua. Senti, a proposito di questo, nel corso della tua carriera hai vinto tanto quanto si poteva vincere, ma anche perso. E come si gestisce una sconfitta a quel punto? Ma io credo che di avere perso di più di quanto ho vinto. Si celebrano le vittorie, giustamente, ma come diceva Dino, durano un attimo. Già l'anno successivo si dimentica la gente, quindi appunto anche per questo, per assaporare sempre il sapore della vittoria, mi ributto con grande entusiasmo e con grande passione verso l'appuntamento e l'obiettivo successivo. Se perdo serve moltissimo avere una grande forza morale, una forza interiore, non farsi abbattere dalle negatività e reagire e scrollarsi di dosso una sconfitta che per me è dolorosa. Io sento proprio certo. Dolore fisico quando perdo, però mi ributto con maggiore entusiasmo, con maggiore carica, anzi trovo molto più gratificante portare su una squadra dopo che è caduta. E ai giocatori che gli dici? Mantieni questa calma? Dipende. Ecco. Ci sono momenti in cui intanto cerco di cogliere sempre le corde del loro cuore, certo. Cerco di emozionarli quando parlo, cerco di entrare in un'empatia tale che appunto quando parlo pendono dalla mia bocca sotto questo punto. E questo è il vero. So anche che fai dei corsi di formazione molto importanti, Sandro, si sente da come parli, da quello che riesci a trasmettere anche dalla lontana Russia, arriva tutto. Senti, invece nella tua vita privata, che rapporto hai con la voce, con la tua voce? Con tua moglie, Direi che è tutto, la voce, parlare è tutto, appunto con i familiari, con i figli, con le compagne o mogli che siano, se non si parla si rovina un rapporto. Certo, soprattutto utilizzi al plurale con le mogli, quante ce n'hai Sandrino? Insomma. No, sto parlando in generale. Assolutamente sì. Senti Sandro, noi ti ringraziamo, è stato breve ma intenso, non vogliamo disturbare la tua giornata di adesso di svago, ma poi di grande preparazione con la tua squadra. Se vuoi un giorno vengo lì col tuo corpo, te doppio io, santa miseria, col corpo tuo, sai che facciamo Sandro mio? Facciamo proprio sfaville. Ma tu sei forte anche così. In bocca al lupo, si utilizza anche per voi questa frase o c'è qualcos'altro? Comunque grazie Sandro, veramente di cuore per averci regalato questo momento direttamente dalla Russia. Spasiba, come si dice, dobre viece, buonasera a te e a tutta la squadra. Grazie Sandro, grazie. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Voice Anatomy. pausa un po' più lunga di Voice Anatomy, ma siamo tornati qui in diretta su Radio 24 e, come promesso, entriamo e rientriamo nel mondo della voce in tutto e per tutto con un ospite straordinario che sta qui alla mia sinistra, mentre un grande amante del nostro lavoro, Frank Merenda, rimane qui con me magari anche per fare qualche domanda, visto che lui è molto affascinato, ovviamente. Ma io sono venuto apposta per parlare col maestro, mica con te il resto della trasmissione. Grazie, scusa. Franky, levate il microfono da lì, grazie, anche perché sta ancora vincendo. E allora io ve lo presento. Leggere tutta la biografia significherebbe dedicare tutti gli ultimi tre blocchi rimasti della trasmissione. Rodolfo Bianchi nasce a Roma il primo settembre, vero? Non nasco a Roma, nasco a Latina. Il primo settembre, ecco, va bene. Bene, però abbiamo cominciato bene. Benissimo. Però sei nato, questo è importante. Sono nato. Possiamo dire quando sei nato? No, vuoi dirlo? Primo settembre. Che segno zodiacale sei? Vergine. Come me. Ma non lo dire così sensuale, non è l'orario giusto per usare questa tipologia di voce. È pomeriggio, siamo in diretta, sono le 16:06. Abbiamo detto doppiatore, attore, direttore di doppiaggio, direttore artistico di Accademia Nazionale del Cinema di Bologna. Lavori, fai dei corsi di doppiaggio lì, ma insomma è inutile raccontarvi più di 500 film diretti e adattati, eccetera. Quanti film doppiati, Rodolfo? Ma credo saranno 2-3 mila, non lo so. 2-3 mila, cioè perché te hai doppiato pure le donne, perché te sono finiti i film, cioè da Gerard Depardieu a Stellan Skarsgård, Ed Harris straordinario, Jeffrey Rush nella migliore offerta, Jeff Bridges negli ultimi film straordinari, bellissimi, come il Grinta, Tron Legacy, eccetera. Harvey Keitel del Cattivo Tenente, ed è l'ultimo, Youth, la giovinezza di Sorrentino, di cui sei anche direttore degli altri film di doppiaggio. Bruno Ganz nella Caduta di Hitler, dopo ne ascolteremo Peter Mullan, Michael Douglas, Jeremy Irons, ma insomma tantissimi. Sentiamo un piccolo contributo della direzione oppure della voce di Rodolfo, che cos'è qui? La direzione di un film, Wall Street. Prego. Voglio che facciate mente locale. Vedete queste piccole scatole nere? Si chiamano telefoni. Vi metto a parte di un piccolo segreto a proposito dei telefoni. Non sanno funzionare da soli, ok? Senza di voi. Sono soltanto attrezzi di plastica. Come un M16 carico senza un marin che prema il grilletto. E nel caso del telefono, tocca a voi, a ognuno di voi. Miei agguerritissimi strattoniani. Miei killer. I miei killer che non accetteranno mai un no come risposta. I miei fottuti guerrieri che non riagganceranno il telefono fino a quando il cliente o compra o per Dio schiaccia! Ecco, lui era doppiato da Frank Merenda in uno dei suoi corsi di formazione, era ovviamente Francesco Pezzulli sul grande Leonardo DiCaprio, diretto magistralmente dal nostro amico Rodolfo Bianchi, che ha anche ormai vinto qualsiasi tipo di premio e quotidianamente questo, ogni anno praticamente vince il premio come miglior direzione. Questo è sintomo anche di grande serietà, perché normalmente sai si alternano i premi per cercare di essere equi, invece è giusto, se Mary Strip vince 3 anni di Oscar, se lo merita, si dà. Certo. E così tu porti a casa sempre così. Ma non voglio parlare io, perché anche Franca vuole ascoltare, anche voi dovete ascoltare la voce del nostro amico Rodolfo. Qui arrivano tantissimi messaggi all'800 240024. Ciao, sono Enrico, inviterai anche altri doppiatori, beh, Luca Biagini eccetera, certo che sì. Poi c'è anche un libro, promessa è per il prossimo libro gratis che deve ancora uscire, penso, la promessa, parlano del tuo libro, il prossimo, sì, è il prossimo, sì, però, sì, quello. Va bene, visto che anche tu vuoi ascoltare lui, Rodolfo, sei un grande attore, un grande doppiatore, un illustre dialoghista, uno dei più bravi affermati direttori di doppiaggio mondiali. In quale di questi campi ti senti maggiormente un leader? Un leader, ma dopo aver sentito Frank, no, io devo dire che la direzione del doppiaggio ha un po' la funzione del leader, direttore del doppiaggio, ma io credo che, qui forse non so se vado contro o ma qui si favore, può andare contro, no, no, a favore delle dichiarazioni fatte. Io credo che nel nostro mestiere, soprattutto nella direzione del doppiaggio, l'importante sia l'umanità. Io credo che sia fondamentale avere un'empatia umana con i colleghi. Credo che sia un rapporto di condivisione, perché quello che io cerco non sempre ci riesco, ma quando ci riesco ne sono felice, sono le emozioni, e quindi per trovare emozioni dobbiamo entrare in empatia. E sono d'accordo con Zoff, mi non alzo mai la voce. Sono no, molto e questo tranquillo, posso molto... dirvelo anch'io, ma i suoi silenzi fanno paura, anche quando parla. Basta questo, dall'altra parte del vetro, e tu capisci di cambiare mestiere. Ho capito, ma se io avessi la voce del maestro, anch'io non avrei bisogno di alzare la voce. Cioè, no, è facile, Felipe, perché... ma guarda, è importante, non serve la bella voce, diciamo sempre, sono le belle intenzioni quelle che riescono a convincere. Certo, no? I colori, gli stati d'animo, cercare di affrontare le cose con umiltà e insieme creare quell'alchimia magica che poi porta a fare un buon doppiaggio. Noi siamo stati insieme l'altra estate, praticamente tutta l'estate, con Rodolfo, perché abbiamo doppiato, lui è il direttore della serie True Detective, una delle serie più belle della fiction, eccetera, e ho avuto la fortuna di essere con lui a sottobraccio per 2 o 3 mesi per Woody Harrelson, insieme all'amico Giannini Adriano, per doppiare la prima stagione di True Detective, e cominciavamo dalla mattina alle 7:30, perché lui si sveglia presto, lei dice: che fai? Vieni a fare colazione. Ma dai 7:30 fino alle 7:30 di sera con Rodolfo, insomma, hai capito? È dura. Tanta roba. È tanta roba che poi non è mai frenetico. Ecco, lui lo sentite, ha questa grande serenità nella voce, ma tu capisci dal silenzio che senti dall'altra parte del vetro che qualcosa non è andato bene. È difficile che entri in sala, perché se entra ti picchia fisicamente, allora è preferibile, insomma. Si sente solo dall'altra parte la sua voce che dice: va bene, adesso quando tornerai fra noi la rifarai, capirei dove sei, è quello che dovrei fare. E quello fa male, però, fa, capito? Fa male. Tu hai Jeff Bridges dall'altra parte che ti sta picchiando con la voce. Quindi sì, no, infatti non urla mai. Senti, essere leader significa accentrare nelle proprie mani tutte queste competenze che tu hai, oppure avvalersi di figure professionali esperte che possono aiutarti in fase di lavorazione. Cioè, tu sei solo, oppure io lo so, però insomma, io sono qui l'intervistatore e devo essere asettico e oggettivo. Ma sai, nel nostro mestiere, tu appunto lo sai bene, ti devi avvalere di tutte le figure professionali al top, perché tutte sono componenti importanti per tirare fuori un buon risultato. Dal nostro tecnico, il fonico, che è importantissimo, come anche in radio. Cioè, io dico sempre: no, in questa radio non è importante. Vi posso garantire, Alessandro, Valerio, buonanotte. Perché Alessandro io lo preferisco fra i due, sapete il perché. Vabbè. Sì. Però ecco, il fonico è una figura importantissima, ma tutte le figure sono importanti. Senti, nella carriera di doppiatore hai prestato la voce, come ho detto prima, a tantissimi personaggi. Qual è quello che ti ricordi con più un'affezione, oppure quello che ti ha creato più fatica? Tutti, perché la gente pensa che sia uno passi davanti a un leggio e dica delle cose così, legge un copione, e invece quando fai una buona interpretazione di qualcosa di un grande attore, già ti senti inadeguato. Nel 99% dei casi uno lo affronta con umiltà e dice: ah, non ci riuscirò mai a fare quello che ha fatto. Ed è il modo migliore per portarla a casa. Io so una cosa, ti interrompo, perché Fellini, tu hai lavorato con Fellini ovviamente. Da bimbo, sì. E da bimbo. E lui ti ha chiesto un giorno di declinare un'intenzione dal grigio al celeste. Bellissimo, sì. Allora, io non so esattamente che significa, ma per dare una prova, allora, prima di andare in pubblicità, io vorrei che tu ripetessi: Pino, sei il doppiatore più bravo che esista al mondo, e declinami questa frase dal grigio al celeste. Grazie. Prego. A con te sarebbe più facile dal celeste al grigio. Ma che favore! Ah, dai! Ma un attimo che dico io. Guarda come applaude dall'altra parte del vetro quel barbone lì. Ma non è bella questa cosa. Ecco, c'è anche l'applauso. Vabbè, sentite, allora, non la voglio neanche sentire questa declinazione. Siamo proprio in orario di pubblicità. Io sono annoiato di questi ospiti. Ci sentiamo fra pochissimo, mi raccomando, con Rodolfo Bianchi e anche Frank Merenda qui al mio fianco. Vai! Alan ha una teoria. Non ne ha una soltanto. Lui pensa che la regola che vieta a uomini e donne di lavorare fianco a fianco esista, perché la vicinanza genera relazioni amorose. Ma io non ho mai... Ad ogni modo, io dissento. Davvero? Sì, se lavorassi al fianco di una donna tutto il giorno potrei apprezzare il suo intelletto e le sue capacità senza portarla in un letto. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Fuori non c'è traffico, ma qui a Radio 24 in Voice Anatomy ce n'è tanto di traffico. Al mio fianco Rodolfo Bianchi e dall'altra parte l'amico Frank Merenda che mi accompagna in questa avventura domenicale. Avevo chiesto una cosa molto carina, ma non è stata esaudita, quella che il grande Federico Fellini disse a un Rodolfo Bianchi bambino. Questa, lui parlava con una vocetta così, il grande Fellini, sempre vezzeggiativi, e ti ha chiesto di declinare una frase dal grigio al celeste, con i colori, sì, con i colori, per dare un colore alla voce, un po' come faceva anche l'amico Ciro Imparato da quel punto di vista. Senti, c'è un contributo però prima, lo voglio far sentire, ci sono due contributi che voglio far sentire con la voce di Rodolfo, che sono tratti, prima abbiamo sentito in chiusura The Imitation Game, uno degli ultimi film, bravo, insieme alla Teoria del Tutto, che ha diretto magistralmente Rodolfo. Qui ci ascoltiamo invece la sua voce nella Caduta di Hitler, Bruno Ganz, e in Youth, l'ultimo film di Sorrentino, dove doppi Harvey Keitel. Prego. I nostri alti comandi militari sono composti da una cozzaglia di vili, pavidi e infidi vigliacchi. Mein Führer, sono soldati che versano il proprio sangue per lei. Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci. Mein Führer, quello che sta dicendo è inaudito. I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco. Sono uomini senza onore! Avrei dato 20 anni della mia vita per andarci a letto. Avresti fatto una bella scemenza. Gilda Black non valeva 20 anni della tua vita. Neanche un giorno valeva. Avete sentito la differenza fra un Hitler arrabbiato, secco, asciutto, qui messo tutto nella bocca? Faticoso, eh? Sì, molto bello. Molto e poi la leggerezza invece di un uomo anziano, che quello che tu sei, poi che voi non vedete. Ma fammi vendicare qualche, ma perdonami. Ma rispetto per il ma maestro. Scusate, ma sono anche il conduttore, mi prendo un attimo una libertà. Allora, ce l'ho rispetto, ma la pagherò questa, tranquilli che la pagherò quanto prima. Abbiamo una telefonata, Tatiana da Pescara. Benvenuta Tatiana, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Sai da quanti anni che la seguo? Sì. E anche la sua, da quando stava con la sua ex moglie, ancora faceva il dopo Beautiful. Sì, facciamo Beautiful, la presa in giro di Beautiful, sì, ma ancora non c'era l'ex moglie, ero fidanzato in quel periodo, insomma, ero ancora. Eri fidanzato. Ero giovane, ero. Sì, e c'era uno che faceva l'oroscopo dopo. Sì. E non... aveva detto una frase che. Sì. Sua ex moglie doveva, che cosa? Trovare un'altra, cioè nel senso, sì, l'ha trovata, va bene, ma non è la trasmissione. È una cosa, vabbè, che sì, cioè, nel senso, sono molto molto profondamente buoni, cioè, nel senso fino all'intimo, sì, che sono legata alla vostra bravura, perché grazie, c'è, signora, un film che esce buono e piace a tutte le persone per il viaggio. Senta signora, lei di dov'è? Non è di Pescara, Tatiana, lei è dell'est? No, io sono, però sono emozionata, sono, sì, una scrittrice, sono dall'Albania, 23 okay, anni. Ok, no, sentivo la voce motivi, sono emozionata. Uno dei motivi, diciamo, della conoscenza, la prima conoscenza che noi abbiamo, io sono da 23 anni qua. È vero Tatiana, abbiamo... Tatiana, scusami, è vero, prego, voi avete imparato a parlare l'italiano, soprattutto in Albania, seguendo il doppiaggio dimmi. E quello stavo per dire, che la prima conoscenza con l'Italia e l'italiano era il film, era, sì, la televisione, e noi vi conosciamo da lì. Io, essendo una scrittrice, e ho fatto anche per tutto, vino pure il primo premio in Albania, mm-hmm, e mi sarebbe piaciuto, perché La Freccia Nera e La Freccia Nera, altri film, sì, sì, no, sembrava La Freccia conosce. Nera sembrava il seguito di Gomorra come idea. Allora, La Freccia, no, Nera, non c'era bisogno della Gomorra, perché c'era, no, il film La Piovra. La Piovra c'era all'epoca, quello, certo. Allora, qua, nella Piovra noi abbiamo visto la giustizia dell'Italia, abbiamo visto, c'era la mafia e la Gomorra, che si diceva che non andate là perché c'è la mafia, però abbiamo visto che c'era questa lotta grande. Sì, sì, ma adesso non c'è più, non c'è più una mafia, non c'è più niente, in Italia siamo tranquilli, è un paese pulito da questo, non sto scherzando ovviamente, c'è ancora tutto e anche di più. Volevi fare una domanda oppure era soltanto una, allora, gratificazione? Ecco, volevo fare proprio la congratulazione, mi è rimasto proprio nel cuore, perché volevo fare un'intervista a Foix. Arnoldo Foà, il grande Arnoldo Foà, sì. E ho detto che non credete che io ho perso la possibilità di 23 anni, no? Ho perso la possibilità. Tatiana, di Tatiana si sente, scusami Tatiana, si sente molto male il telefono. Allora, siccome siamo per radio, è fondamentale, ma soprattutto è fondamentale che noi ascoltiamo anche i nostri ospiti. Noi veramente ti ringraziamo di questa tua c'è la domanda rapida, così ti rispondiamo, altrimenti dobbiamo andare ancora in pubblicità. Allora, la domanda è che come si fa ad avere la possibilità di stare vicino e di presentare, diciamo, un film e di partire, di avere la possibilità di presentare un film oppure italo-albanese, perché ci sono tante persone che sì, come me, che sono scrittrici. E dare la possibilità. Sì, sì, sì, ma questo persone, da quel lato, ecco. Tatiana, ci sono produttori, distributori, che, oppure delle reti televisive che possono prendere in visione quello che tu hai scritto per poi essere giudicato e messo in produzione. Ecco, quella è l'iter da seguire, cioè non possiamo certo farlo noi qui da questi microfoni. Però intanto ti ringraziamo perché la tua testimonianza è stata importante, importante anche perché uno non sa certe volte che quello che uno fa viene ascoltato e viene preso anche come oro da persone che vivono da un'altra parte, con un'altra lingua, un'altra cultura, e invece è fondamentale, no, Rodolfo, fondamentale. Il fatto di adattare bene un film con delle parole giuste per essere anche, capito, come vedi, delle persone in certe nazioni hanno imparato questa lingua attraverso il cinema. E questa è una cosa bellissima, mi riempie di orgoglio e credo che riempia d'orgoglio tutto quanto il nostro settore. Il perché? Perché noi abbiamo una funzione culturale che a volte ci viene negata, ma che invece persiste, esiste ed è fondamentale. Io dico sempre che il valore editoriale di un prodotto cinematografico o televisivo, ha un'importanza che neanche noi che la facciamo riusciamo a capire quanto è importante. Entra in tutte le case, a tutte le ore, quando è televisione, quando è cinema, anche dal cinema poi si passa in televisione, e tutti l'ascoltano, molti imparano l'italiano, ma noi attraverso la nostra voce, la nostra interpretazione, riusciamo anche forse ad arrivare al cuore, a risolvere dei problemi. Io mi ricorderò sempre quando doppiai il cattivo tenente Harvey Keitel. Un giorno giravo una cosa a Torino, una fiction, e stavo lì, non sapevo che tutti sapessero questa cosa, sì, l'avevo fatta, però, e un signore, un macchinista della troupe, quando ha capito che ero io, mi si è buttato in ginocchio e mi ha detto: lei mi ha salvato la vita. Io non ho fatto niente. Dico, io ho doppiato. Anzi, è cattivo. Non lo so. No, perché lui da lì ha capito che si stava autodistruggendo. Poi detto, come il protagonista del film. E così lui ha capito poi il dolore che aveva questo personaggio, e questo l'ha aiutato a riscattare. Vedi, a volte sono delle cose. Ma sono delle cose strane. Però l'adattamento è fondamentale in tutto questo. L'adattamento, ma l'interpretazione è importante, perché poi noi trasmettiamo con la voce le emozioni. E a proposito di questo, tu come direttore di doppiaggio hai lavorato su film straordinari: Il pranzo di Babette, L'odio, i film di Michalkov, ho avuto la fortuna di farne anche uno, Il postino, che sembra una stupidaggine, dice un film italiano, eccetera. Non era così. Intanto c'era Massimo Troisi, indimenticato, che morì subito dopo, per cui non poteva ridoppiarsi, e c'era l'attore protagonista Philippe Noiret, che invece recitava in un'altra lingua, doveva essere doppiato. Il postino ha una storia particolare. Massimo, appena finito di girare, purtroppo è morto, quindi io presi il film e doveva inaugurare Venezia, e allora fu tutto un lavoro fatto dall'equipe tecnica, chiaramente straordinaria, che pulì tutte quante il girato, la presa diretta di Massimo, addirittura alcune cose prese dal Nagland, allora si usava il Nagland, registratore, sì. E pulite, messe lì, e tutto il resto del film è doppiato intorno al filo di voce che usava Massimo, perché già stava male. E però, per la gente che non lo sa, cioè doppiare altri personaggi e non altri, si può sentire la differenza totale. Invece lì è stato un lavoro certosino, tecnicamente perfetto, con tanta pazienza, chiaramente, con gli attori di Presa Diretta che si sono venuti a doppiare loro, chiaramente. Filippo Numerecchi l'ha doppiato, Bruno Alessandro. E con la consulenza cilena venne uno degli Intillimani, che stavano a Roma in quel periodo, e vennero molti attori napoletani per fare tutti quelli che noi chiamiamo i brusì, cioè i piccoli personaggi, i pescatori, le cose. Però unirli con la voce di Massimo, che era in Presa Diretta, è stato un grande lavoro. Non sembrava uno parlasse da un'altra parte. Bravo, il fonico di mix, che anche lui purtroppo è scomparso, che era Angiolino Raguseo, di Cinecittà. Il regista era inglese, per cui si affidò totalmente a noi, perché non Michael Radford, esatto, e quindi è un capolavoro, facciamo un bel lavoro. Sembrano tutti italiani in quel film, è tutti in Presa Diretta, tutti, questa è la cosa bella, bello, sì. Questo è bello bello. Tu hai una curiosità, Frank, da fare al nostro, a parte esaltarlo di fronte a me, che ti costerà ovviamente la nostra amicizia, ma a parte questo, stai solo ascoltando e sei rapito dalla sua densa in parte. Assolutamente sì, però una domanda in realtà ce l'avrei, che ti prego. Maestro, io volevo chiedere questa cosa, nel senso che io sono cresciuto ovviamente, e lei sa, io sono un suo grande fan, sono un fan del doppiaggio in generale, quindi un grande sostenitore del doppiaggio in italiano, pur usufruendo dei film anche in lingua originale, laddove insomma mi interessino e quant'altro. Però c'è una cosa, per esempio, io come tutti i ragazzini e i bambini della mia età, il primo impatto con il doppiaggio l'ho avuto attraverso i cartoni animati. Quindi io mi ricordo, ero proprio bambino e c'era Romano Malaspina che doppiava Goldrake, doppiava Zigrobo d'acciaio. Romano aveva questa voce straordinaria in realtà per i personaggi che andava a doppiare, quindi creò una grande credibilità per questo tipo di personaggi, facendoceli assolutamente amare, perché certo, eravamo bambini. Io le volevo chiedere questa cosa, una domanda un po' difficile, non la vorrei mettere in difficoltà, quindi magari veloce, che manca poco un minuto. Cosa ne pensa della tendenza attuale contemporanea di far doppiare i lungometraggi animati da non professionisti del doppiaggio, ecco, cioè questi cantanti che arrivano, sta gente? Mi piace bene le provocazioni, No, io la chiedo al maestro, così, magari. No, ma è giusta la domanda, ma ci vuole un po' di tempo, siccome abbiamo 5 secondi ancora e poi torniamo ovviamente in compagnia di Rodolfo Bianchi e Frank Merenda. Cercherò di mitigare un attimo, perché se entro pure io a rispondere a questa domanda ci fanno chiudere. Bene, a tra poco, Voice Anatomy. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Voice Anatomy. Bentornati a Voice Anatomy, la voce ufficiale di Radio 24 e l'amico collega Christian Iansante. Ma a questo punto qui ci abbiamo poi Rodolfo, me lo fai tu un gingolino al volo alla fine, che poi resta soltanto fra di noi. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, ti ha fatto una domanda a Frank Merenda prima di andare in pubblicità, che era: sei d'accordo del fatto che certi film di animazioni vengono doppiati da non professionisti ma da persone famose dello spettacolo? Io l'ho fatta, scusa Rodolfo, la domanda per questo motivo, nel senso che per i ragazzini, per i bambini, i primi leader tante volte sono gli eroi proprio dei lungometraggi, dei cartoni animati, quindi il primo impatto che hanno con delle figure di riferimento. E quindi oggi sentire queste persone che arrivano sul protagonista del lungometraggio, cioè, è brutto. Ha già risposto, bene. Ha detto guarda, se andiamo a litigare. No, assolutamente. E Frank è così, è uno che non si tiene. Bravo però, vai. Ma io credo che queste scelte siano determinate dal marketing, cioè che siano dei veicoli pubblicitari. Ora, se sia giusto o no farle, questo lo devono dare i dati, i risultati che portano queste cose. Io credo che a volte non ce ne sia bisogno, credo che si possano utilizzare i cosiddetti talent, tra virgolette, una parola poi orrenda, anche perché gli altri sono non talent. Esatto, credo che sia insomma il personaggio conosciuto, il personaggio famoso, dipende anche lì, credo, da come si effettui la scelta, insomma, da come si effettua la scelta, perché la scelta è fondamentale. Se tu prendi un attore bravo che non fa doppiaggio ma è bravo, è un attore, se ben diretto e se ben supportato, può dare un buon prodotto. A volte se prendi un presentatore, no, un presentatore o alcuni presentatori, perché non tutti, poi sono molti, sono bravi, voglio dire, o prendi una showgirl che non è abituata a recitare, allora forse lì diventa un pochino più difficile farlo. Però insomma voglio dire è perché è un doppio salto mortale, cioè, doppio sia salto recitare mortale, sia andare a sync con un altro che ha già recitato, un altro insomma, già recitato, no? Anche lì, quindi è molto importante come viene supportato e che in quel caso come viene diretto, come viene aiutato ad affrontare. Senti, Rodolfo, tu sei uno, non sei, sei giovane, ma sei un po' figlio del vecchio, della vecchia generazione, quella straordinaria, straordinaria. Doppiatori che almeno hanno segnato tanto ai nostri madri, a tutti noi, tutti insomma, noi. Sentire, anche perché pensavi che quegli attori, Cary Grant eccetera, parlassero con quella voce, insomma, certo. Era Maglio De Angelis, era Cesare Barbetti, era Panigali, era Pino Locchi, era Cigoli e quanti altri, insomma quel modo di recitare. Tu sei un, hai cominciato in quel periodo, eri piccolo, ma eri... Ero piccolo, ho cominciato in quel periodo, alcuni li ho vissuti, respirati, ma devo dire che... Tu Cicoli l'hai conosciuto, Cicoli, la voce di John Wayne. L'ho conosciuto. Allora quel giorno che francamente me ne infischi. Ah già, è vero, Gable. Ma abbiamo una telefonata, credo proprio a proposito di questo. Antonio da Milano, pronto? Allora io innanzitutto volevo salutarvi e ringraziarvi per tutte le belle vostre interpretazioni, a partire da quella di Jamie Foxx di Pino in Django Unchained, che ancora oggi rivedo ed è stupenda. Grazie. Fino al giovane Hitler, appunto, del maestro Bianchi. Io sono emozionatissimo e cercherò di sintetizzare al massimo, perché io sono un grandissimo amante del doppiaggio. Quando purtroppo un doppiatore ci lascia, per me è come se mi lasciasse un pezzo di cuore, perché da amante del doppiaggio qual sono, cerco sempre, anzi sono proprio uno di quelli che prima di lasciare il cinema, dopo aver visto un film, durante il film, sono lì che cerco di riconoscere i doppiatori, e viene, puntualmente viene fuori che un po' ci ho azzeccato e un po' no. Comunque vengo alla domanda, sì. Che è questa, secondo voi, non so se vi siete ritrovati in quello che vi sto per domandare, però ad esempio un Stefano De Sando che improvvisamente gli viene chiesto di doppiare Robert De Niro quando il maestro Amendola purtroppo ci ha lasciati, che difficoltà oltre all'interpretazione può avere trovato per cercare di fare, non dimenticare, ma prendere proprio il posto con una voce che è letteralmente diversa, ma che ancora oggi è una delle più belle, senza contare gli altri grandi doppiaggi che ha fatto in Lincoln, in tanti altri film, Stefano De Sando. Sì, no, è bravissimo. Vabbè, cioè, James Gandolfini nei Sopranos, Breaking Bad, altre serie. Voi, e mi scuso con voi per la mia dizione che è pessima da milanesone. No. Ma invece no, sembravi più emiliano a un certo punto con la Z, ma no, invece era buona, ma va bene così, Antonio. Ti rispondiamo subito, anche perché poi tu hai utilizzato De Sando in un ridoppiaggio famoso, quello del Padrino, su Marlon Brando. Sì. Come si sarà sentito? Beh, lo chiederemo, sarà ospite anche Stefano qui, certo, prima o poi, per cui la rigirerò a lui. Ma io non lo so come si sarà sentito, bisogna chiederlo a lui, credo che sarà... Inorgoglito, che poi la voce di Stefano, certo, è più simile a quella di Robert De Niro rispetto a quella di Amendola con Robert De Niro. Sì, ma lì... Il match voice è diverso, però sì, sai, ti sei affezionato... Sei affezionato a certi Ferruccio, suoni, a certe, certo, cose. Io devo dire che infatti uno dei premio che mi ha inorgoglito molto è stato quando mi hanno dato il premio Ferruccio Amendola. Proprio per il ricordo e per quello che ha rappresentato Ferruccio nel nostro settore. Che comunque la voce, perché con quelle titolo è tutto finito, ok? Va tutto bene, ok? È tutto bene. La straordinaria. Questi sono i nostri maestri, insomma. Eh sì, io sono il tuo allievo, per cui sono, va bene, sono orgorglioso anche fa finta di essere più giovane. Ma no, più giovane. Ah, senti che voce leggera, e senti qua. Ehi, su, vieni qui. Fallo tu così con sta vocetta, dai. Attento. Non ce la che la fa. La fa. Senti, per sottolineare l'importanza della voce, questa è la trasmissione che racconta la voce in tutte le sue insenature, in tutte le sue declinazioni, non abbiamo chiesto all'amico Rodolfo Bianchi di leggere capisci una storia, una poesia, cioè lui l'ha portata, eccetera. Io invece ho fatto scaricare adesso dal nostro amico autore Damiano Berti, che insieme a Alessia Navarro e soprattutto coordinati dal bravissimo Filippo Cellini, abbiamo chiesto di leggerci le, che cosa sono? Le istruzioni della lavatrice. Dio mio, sì, le istruzioni della lavatrice. Allora, per farvi capire quanto la voce può essere evocativa, quanto può raccontare cose, Gassman lo fece con le ricette e tante altre cose. Lui era Gassman. Vabbè, ma tu hai fatto l'attore, fai l'attore, cioè vieni dal teatro, non è che vieni da casa mia. E io metterei anche la musica di sottofondo abbinata a questa lettura e vediamo un po' dove ci trasporta inaspettatamente Rodolfo, che gli hanno consegnato questi foglietti. Adesso ti do gli occhiali, Rodolfo, tieni. Ah, grazie. Ecco, perché non ci vede. Dai. Ma no, guarda, ci leggo. Facci leggere, vai, facci sognare. Senti la musica prima, Eccola. Vai. Premendo leggermente questo tasto, la lavatrice inizierà il ciclo di lavaggio dopo un periodo di tempo e l'indicatore corrispondente avanzerà. Le possibilità di scelta vanno da 0,5 a 24 ore. Ogni pressione di questo tasto aumenterà la partenza ritardata di mezz'ora. Dopo che il tempo è stato selezionato, premere il tasto avvio pausa per far partire il conto alla rovescia settato. Il tempo è mostrato sul display fino a che il programma di lavaggio finirà. All'interno del cassetto sono presenti tre scomparti. Scomparto 1, detergente per prelavaggio. Scomparto 2, detergente per i programmi da 1 a 10. Scomparto 3, ammorbidente, balsamo, profumo, eccetera. Beh. Grande! Beh, questo a proposito di venditore vincente, se uno si presentasse così con questa voce a vendere una lavatrice la compri subito, due ne voglio, tre, quattro. Ma sporchi i vestiti pure tutto, se ce l'hai puliti. Smezzozzo tutto, lavo tutto, me lavo pure io tutto, me butto dentro al carrello tutto. Fatemi una centrifuga, vi prego, di mela, di qualsiasi cosa, me mi butto dentro. Senti, a proposito di questo voglio sentirmi un contributo con la voce di Rodolfo, che è tratto da un film bellissimo, devo dire, Tornatore, interpretato benissimo. E poi è stata l'unica volta che tu hai doppiato Jeffrey Rush, ma benissimo, è uno di quegli attori che si presta a varie voci, a varie interpretazioni. Qui era perfetta la tua, ce l'ascoltiamo per un po' di secondi. È tratto dalla migliore offerta. Pronto? Mi dispiace, Mr. Oldman, ho chiamato tutte le case editrici esistenti, ma nessuno sa chi è. Dicono tutti che spesso neanche loro conoscono l'identità di chi scrive sotto pseudonimo. Non avrei mai sospettato che ti saresti cacciato in un pasticcio come questo. E non so neanche come aiutarti. Quello che potevi fare era ascoltarmi. Vabbè, soltanto alla fine ce lo siamo goduto la voce di Rodolfo. Vabbè, potevamo scaricare questo momento, ma comunque avete capito, chi l'ha visto e se lo andrà a rivedere, chi non l'ha visto lo veda perché è un grandissimo film. C'è un messaggio: ciao, provate a registrare sul vostro numero, ma la segreteria mi ha sbattuto fuori, fa così che la mia voce. Paolo, no, non è assolutamente, non sceglie la segreteria telefonica. A proposito, lasciateci i vostri contributi, anche oggi abbiamo scelto un ragazzo che dopo si cimenterà con noi qui in diretta su Voice Anatomy, proverà a farci sognare. È giovane, abbastanza inesperto, ma grande volontà di voler tentare a fare questa strada. Ma noi accettiamo anche chi non vuole fare questo mestiere ma vuole cimentarsi con la nostra trasmissione. Il numero verde è 828 12 12. Poi abbiamo tutto il resto delle cose, ovviamente il Twitter che è chiocciola Voice Anatomy, il Facebook Voice Anatomy Radio 24, e poi abbiamo anche una mail, Voice Anatomy con la Y, chiocciola radio24.it, dove ci racconterai la tua vita e noi proveremo a farla leggere a un grande attore, diventerà così magari un film come adesso la lavatrice è diventato un pezzo di teatro. Sì, è quella, la voce è questa, è divertente, è voi affascinante. Però c'è una cosa che non avete mai provato nella vita, questa vi mancherà per sempre. Che cosa? Quanto è difficile conquistare una ragazza da noi comuni mortali senza la vostra voce. È vero, noi un po' per telefono ci si gioca, anche perché tu puoi piangere per telefono mettendo soltanto un po' di saliva in bocca, tu fai così. e invece stai ridendo come un pazzo, no? È questa la cosa terrificante, però non siamo così falsi, insomma, santa miseria. Maestro, no, tu anche peggio. Ecco, grazie. Ma Fremenelli non doveva prendere il treno per tornarci. Va bene, allora dobbiamo chiudere questo momento, ma ci abbiamo un altro momento insieme. Puoi dire saluto chi? Senti, saluto Frank. Ero male. Come meno male, Frank? No, volevo rimanere. Meno male. Allora, scherzo ovviamente. Frank Merenda ci ha accompagnato tutto il pomeriggio e torna in quel del nord per preparare i suoi corsi di formazione molto importanti di venditore vincente. Grazie Pino, ciao, grazie Frankie. Maestro, ciao a tutti. Ciao, Frank. Grazie, ciao. Frank. Maestro, tu rimani qui ancora con me. Bene. E puoi dire voi sanatomi Radio 24. Dimmela un attimo. Voi sanatomi, Radio 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Voice Anatomy. Ed eccoci di nuovo in diretta con Voice Anatomy Radio 24, l'ultimo momento insieme prima di passare la linea ai nostri amici di tutti i convocati. Qui al mio fianco sempre l'amico Rodolfo Bianchi, dall'altra parte ci ha raggiunto il provinante della settimana che si è anche lui cimentato nella nostra voice box, nella nostra segreteria telefonica, e noi fra i tanti abbiamo scelto lui e lo conosciamo. Allora, come ti chiami? Emanuele Cellini, buongiorno. Quanti anni hai, Emanuele? 19. 19, e sì. Che cosa fai nella vita? Nella vita studio recitazione, doppiaggio, altrimenti non sarei qui, anche se non sono ancora un esperto per niente. E canto, studi? Scrivo. Canti, studio, sì, ammazza, tutto fa, tutto. Noi ci provo, ci provo. No, devi fare, poi sei così giovane, esatto. Assolutamente. Ho una vita, spero di dove studi recitazione, insomma, sei all'università? Recitazione in una compagnia, all'università frequento il Roma 3, drammaturgia. Benissimo, sei al DAMS di Roma 3. Sì. Benissimo, per cui insomma è la tua vita, questo vuoi fare, che sì. Ci chiamano tantissime persone che vogliono cimentarsi, anche dei laici che vogliono cimentarsi in queste storie, perché poi affascina un po' tutti il mondo del teatro, che io ripeto, un giorno avremo anche, spero, anche il ministro della pubblica istruzione, dove gli diremo di mettere proprio per legge all'interno delle scuole recitazione, il teatro, magari, il teatro. E non è detto che tu debba fare teatro, il teatro no, Rodolfo, ti aiuta a stare con gli altri, a confrontarti con i tuoi colleghi sul palco, ma soprattutto a disinibirti rispetto a un pubblico, a abituarti a parlare in pubblico. Io credo che sia fondamentale a comunicare. È fondamentale in una società, sì, dove ormai è tutto sul computer, sul telefonino. Sì, quello diciamo noi è il mezzo di comunicazione più importante, più potente, poi da questo punto di vista. Allora, di fronte al maestro Rodolfo Bianchi, grande emozione, sì, cimenterà in qualcosa. Tu che cosa hai recitato nella segreteria telefonica? Ho portato la parte del monologo finale tratto dalla leggenda del pianista sull'oceano, di Tornatore. La parte con Tim Roth. Tim Roth, sì. Ovviamente, sì. Che lì era doppiato dall'amico e attore bravissimo di teatro Massimo Popolizio. Va bene. Chi l'ha diretto? Cesarino Barbetti. Credo. Ah, il grande Barbetti. Grande Cesarino. E allora, vuoi pure tu un po' di musica? Ma sì, grazie. Ma non si nega niente a nessuno. Tutta quella città non si riusciva a vederne alla fine. Quello che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. La terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella, è un profumo troppo forte, è una musica che io non so suonare. Fermati un attimo. Più semplice, ricomincio. Più semplice. Tutto vabbè. Più semplice, più buttato vabbè, via, più vabbè. Lineare, più lineare. Vai. Okay. No, ma visto, siamo qui, facciamo anche un certo. Po' di tutorial. Vabbè, grazie, quello più leggera, quello senza speravo. Tutte quelle pause, senza. Più semplice, più buttato via, più da ragazzo. Non pensare a Tim Roth, non pensare. Adesso sei tu che la stai vabbè, parlando. Vabbè. Sei un ragazzo di 19 anni okay. Che ha vissuto quell'esperienza su quella barca. 900, vai. Tutta quella città non si riusciva a vederne alla fine. Quello che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. La terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella, è una musica che non so suonare. Hai visto che viene più, grazie, più sì. Fluida, vai. Al massimo posso scendere dalla mia vita. In fin dei conti è come se non fossi mai nato, giusto? Solo tu sai che sono qui, Max. E non ti resta che adeguarti. Perdonami, amico mio. Io non scenderò. Beh, Che dici, Rodolfo? Bene. Sai che non è male, eh? No, no. Grazie. No, non è male per niente. È giovane. Sente che è giovane, inesperto. Non... Però c'era un velo di fascino, c'è, sì, già. Sì, sì, sì. No, non... Promette, promette. No, no, sinceramente, poi c'hai orecchio, perché come ti ho detto di alleggerire e unire, è finito di essere filodrammatico. Ero davanti... nel personaggio. Sì, diciamo. Ma troppo, sai, quando uno spinge troppo con certo, l'interpretazione, certo. Io, certe volte il maestro al mio fianco dice un po' meno, un po' meno. Io la stavo solo pensando quella parola, eppure già si era incisa esagerata. Per cui succede anche questo. Però non è male, Emanuele, davvero, no, non è male per niente. Promette, grazie, grazie. Bene. Adesso vediamo come... Grazie mille. Quali sono i tuoi punti di riferimento per quanto riguarda questo mestiere? Dunque... Esclusivi presenti. Esclusivi presenti. Così non ti mettiamo in imbarazzo. Bene. No, senza dubbio, vabbè, Rodolfo, con James Caan, soprattutto quando doppia James Caan. James Caan, un 19enne che ti sottolinea James Caan, sì. Non è male. Poi Luca Ward, Ferruccio Amendola, sì. Marco Vivio, che è un giovane. Mi piace molto, anche perché... Voglio dire, ci stanno i grandi, no? Flavio Aquiloni, questi esatto, giovani. Esatto. Sì. Però anche i giovani non li disprezzo, insomma, mi sembra che giusto, scherzi, anche no? Ascoltare. È giusto, e... ma io sono... i nostri sono bravissimi. Sì, molto. Io sono compreso fra i giovani. Comunque. Certo. Sì. Ma perché sei l'ultimo giovane? L'ultimo giovane, un film bruttissimo. L'ultimo giovane, stasera alle 20:40. Compino il sì. Addio del cielo. Per cui questi giovani, tu vuoi fare ovviamente teatro, non dimenticare mai che si parte da lì. Dal teatro, assolutamente sì. Non dimenticare, perché tante volte uno cresce in sala di doppiaggio, è vero, diventa un bravissimo doppiatore, ma dimentica un po' il corpo e allora sono guai poi quando si... Infatti non si deve mai fermare, qui si studia sempre. Non ci si ferma mai. Mai. E a proposito mai. Di non fermarci mai, non ci fermiamo noi, ma chiediamo la linea un attimo ai nostri amici dall'altra parte di... chi c'è dall'altra parte pronto? Chi c'è? Ah, c'è Carlo. Allora, sono Carlo. Carlo, ciao, non so mai chi amico c'è. Mio. Non voglio sapere i risultati perché già lo so, perché tu devi sapere che il tecnico del suono dall'altra parte è dall'altra parte di questa città, no? Ciò so. Fa l'altra squadra. Io non voglio parlare di calcio la domenica, soprattutto in questi casi. Non mi interessa, seguo moltissimo il basket, seguo la pallamano, il nuoto, la pallanuoto. Il Genoa che in questo momento segna in inferiorità numerica il gol del 3-2. Ma cosa dai. Così? Sì. A questo invece dammi una notizia di un pareggio, mi dai una notizia. Ecco, non sai che gesti che fanno. Che te devo dire? Non mi Pino, devi niente, state allora... perdendo, è inutile sì, stare. 2-1 con Sassuolo. Che vuoi fare? Sassuolo è uno squadrone, eh? Sì, bene, siccome io devo andare a teatro mettetemi sì. Fare pubblicità nella radio cui faccio parte. Sono al Teatro Tirso di Roma, in via Tirso, via Po, con Frankie e Johnny, Paura d'amare, tratto dal film proprio Frankie e Johnny, che alle 5:30 è previsto lo spettacolo pomeridiano. Visto che io finisco alle 5, non potrò continuare a parlare con voi. Ma non perché che è successo? Taxidis, con chi gioca? Ecco, Genoa, ecco, segnato il gol del 3-2 al 92esimo minuto. Però noi... È finita la nostra, vero? No, sono tutte in corso, soprattutto è in corso la partitissima. Cioè, Napoli-Fiorentina 2-1. Napoli-Fiorentina 2-1, gol dei due più forti attaccanti in questo momento del campionato, cioè Lorenzino Insigne e Gonzalo Higuaín. Ha segnato anche Kalinic, gol del momentaneo 1-1, ma soprattutto qui siamo indietro, siamo al 41esimo e 38 secondi perché... A Napoli, bisogna pettinarsi, guardarsi allo specchio, toccare i santini, quindi sai, tempo passa. Certo, tempo giocare passa. In casa del Napoli, il pubblico è veramente il 12esimo in campo. Invece a Sassuolo siamo al 45esimo, immagino. Sì, già. Siamo al 45esimo, siamo in tempi di recupero. Beh, comunque, l'Atalanta batte 3-0 il Carpi. Io il sono Frosinone per l'amico Rei e Bollini, quello sono molto contento. Il Frosinone batte 2-0 la Sampdoria. Ma pensa a te, il Frosinone sta alzando la testa alla grande, già. Come detto, Genoa 3, Chievo 2, Napoli-Fiorentina è 2-1 per il Napoli. E poi Sassuolo-Lazio, già lo sai. Non lo so, non lo voglio sapere. 2-1, te lo dico grazie, io. Grazie. Mamma mia. Genoa-Udinese 1-1. Grazie. Ci sentiamo dopo. la Roma ha vinto 3-1, mi dice il nostro tecnico del suolo, ma lo sapevamo. Questa è storia. questa è storia antica. Va bene, caro. Sì. Io ti ringrazio del tuo affetto. Ma ci mancherebbe, mio caro Pino. Ci mancherebbe. Abbracciami gli altri, mi raccomando. Ci sentiamo dopo? Grazie. Sì, ciao, scappo. Devo scappare davvero a teatro, davvero. C'ho le 5 e mezza lo spettacolo. Ah, vabbè, niente, allora non ci sentiamo dopo. Va bene. Un abbraccio, ciao, Carlo. Caro Carlo, ma a questo punto salutiamoci un po' tutti. Grazie, Emanuele. Grazie. È stato carino, ma soprattutto grazie all'amico Rodolfo Bianchi e a tutti gli ospiti che si sono alternati. A Frank Merenda, che ha fatto un po' da Virgilio, mi ha accompagnato in questo viaggio domenicale. Al nostro grande astronauta, a Campagna, a Dino Zoff, tutti gli ospiti che si sono alternati. Ci sentiamo domenica prossima, sempre su Radio 24, Voice Anatomy.